Ah no, scusate. No. mi ero esaltato. Va bene, e benvenuti, bentornati. Siamo qui in diretta con Tycoons & Dragons, RIPGDR. E i nostri... Giulio. Bravo, Giulio, tutti con la maglietta oggi, grande. Grande. Siamo qui con l'episodio, se l'ho scritto bene, non lo sono così sicuro. Quasi. Quasi tutti. Vabbè, non tutti, vabbè, che giù. Anche Katta forse ce l'ha, sì? Forse, ma vabbè, non ma controllare. È timido. Comunque, esatto. Episodio 80 della maledizione di Katta. Ebbene sì, ci siamo, siamo arrivati. Non si vuole spogliare davanti a noi in quella stanza. Ma esatto. Non ci vogliamo fermare. Episodio titolato... prendi anche la sigla. Pa, pa, pa. No, ma arrivano le notifiche sul telefono. Sì, sì, adesso poi lo condividiamo anche su Facebook, assolutamente. Come avete visto, continuiamo sul nostro mood YouTube, per il momento ci piace, e poi vedremo in futuro, ma... E continuiamo anche col podcast, prima o poi verrà pubblicato. Sto cattivo. No, vabbè, vabbè, Katta non è così lontano. E invece Giulio. Tipo, con questa musica Giulio non lo sentiremo mai. Esatto. Comunque, Giulio Bosi è con noi, questo è mio. Fatica a sentirvi anch'io. Giulio Bosi è con noi. Quello perché devi abbassare il volume. Giulio Bosi è con noi. Katta, il nostro master, è con noi. Io, Andrea Giacomo Vecchi, e con me oggi qui Stefano Gamberoni, mentre Marco Bosi è con noi da remoto anche lui. Non mi muterete mai più. Salutiamo Saladini, lo salutiamo. Sì. Salutiamo Salla che non sarà con noi oggi. E vabbè, Arci, non so neanche se ha più senso salutarlo. Salutiamo anche Lasa, allora. Che tra l'altro io non so, lavora ancora al cucchiaio, perché io sono andato e non l'ho visto. Vabbè, gli devo scrivere. E Laz, se ci segui, faccio sapere. Palla 2 settimane fa, ci siamo passati solo davanti. Senti questa voce? Una voce piccolina. È come se fosse Giulio. Ma non è Giulio, forse. Va bene. 2 settimane fa. Allora. Direi che sono testimone, ti sente, ma direi che ignorando. Il riassunto. No, dici Giulio, dici tutto. Non posso alzarlo di più. A panculo. Forse potrebbe essere un'idea passare. Io lo sento bene in realtà. No, dicevo che 2 settimane fa, quando con Salla siamo passati di fronte al cucchiaio, perché volevamo andare a salutare l'ASO, ma poi c'era troppa gente e quindi siamo andati dritti. Lui c'era, cioè abbiamo visto che faceva qualcosa dentro. Era dietro banco o era davanti e beveva un drink? Cioè, no, dietro che preparava roba. Ciao Miki. Due volte sono passato in Piazza Verdi e 2 volte l'ho visto al piccolo che beveva. Ma il piccolo va a bere da pipa. Beh, cioè, non è che sei un ispettore. No, però mi è capitato 2 volte su 2 minuti. Talker! Va bene. Ti paga, riassunto non lo farà Giulio. Esatto. Lo vuoi fare tu, Sceo? Vai. Vai. In realtà... Allora... Chiedete a Vezzo, non è successo niente. In realtà cosa no, in realtà no, sono successo dei grandi danni. Non è successo un caso. Allora, siamo nelle catacombe, abbiamo esplorato abbastanza superficialmente, direi. Abbiamo visto tutte le tombe. Ho tolto il bardo perché non ti sento. Okay. Palesemente Katta non si era guardato un'altra pagina e gli abbiamo concesso di... Abbiamo aperto le tombe che ci incuriosivano di più, o tutte. Quelle che secondo noi dentro potevano avere qualcosa di interessante. Danni. E direi che si può riassumere velocemente dicendo in cui l'unica veramente utile, che è quella dove all'interno c'era questo essere che aveva la lancia che era stata in passato nelle mie mani. Si può riassumere velocemente, ma è più divertente ricordare come ci siamo arrivati a quella. Perché sostanzialmente... Sì, abbiamo aperto diverse tombe. Voi andate in giro. Io a un certo punto mi sono rotto le palle e avevo intuito che quella di Strad fosse tipo in fondo. Per cui sono arrivato lì e ho detto, oh ragazzi, c'è quella di Strad. Poi tipo dopo un po' hai detto, ok, andiamo. Poi tipo Katta, tipo dall'oscurità, ma non volete sapere le ultime due che cosa sono? Sì, e quindi siamo finiti a fare la cosa bella è che abbiamo aperto una di queste tombe, sono arrivate cose che facevano danni e E Katta ha deciso che Vez era comunque lì davanti in bianco a noi. E questo allora, in una sì, poi l'altra sono arrivata. Sì, sì, è vero. Ma come hai fatto a capire che era tombare in fondo? Da una descrizione o hai guardato la mappa? Intuito, intuito. No, in realtà io semplicemente a un certo punto sono andato in giro a guardare così. No, comunque sì, abbiamo recuperato... Abbiamo vinto lo scontro contro il Wraith e i due mastini. Abbiamo recuperato la mia lancia, che sarà fondamentale. Sì, che poi è strano che sia lì. Sì, è strano che sia lì, in effetti. Però era lì. E quindi l'abbiamo recuperata. È stato giusto così. Abbiamo perché speso tu... un po' delle nostre forze, ma... No, perché tu in realtà l'avevi trovata in un contesto completamente diverso. Sì, e l'avevo data al mio amico strano. Completamente diverso. Beh, eravamo... intanto eravamo all'aperto. E vabbè. Quindi sì. Tu dici erano comunque delle tombe anche quelle, questo vuoi dire? Sì. Sì, era fatto da un antico barbaro. Bla bla bla. Comunque, banalmente l'avevi data a Strad e adesso l'hai ritrovata nelle sue catacombe, quindi. Sì, ci sta. E niente, poi nel dove doveva essere. Sì. Nel finale della puntata ci siamo propinquati verso sud. Nella stanza e abbiamo visto da una grada, da un cancello, che la stanza dopo di fatto è quella che dovrebbe essere la tomba di Strah. Che niente, Vez ha questa mania di andarla a vedere, quindi ci andremo. Siamo davanti a questa griglia, questo cancello, che non ha una serratura perché Salla l'aveva chiesto e non c'è. E stavamo cercando di capire come... Avevamo trovato la leva e qualcuno l'aveva attivata. Sì. Ah, sì? Salla ha fatto mano magica e ha tirato... C'era una leva all'interno, vedi che allora avevo ragione. All'interno c'era... della stanza della tomba c'era questa leva e lui con mano magica l'ha raggiunta e l'ha aperta, è vero. E niente, poi direi dissolvenza sul fatto e che poi la grata dissolvenza. Cazzo, dissolvenza non me la ricordavo. Hai pensando, dimenticato vabbè. Che hai trovato tre pergamene. Hai trovato tre pergamene, è vero, sì. È vero. E uno scettro, un bastone con un'estremità sì. metallica e una di marmo, una cosa del genere. Hai visto che ho lasciato lo stocco negli acquiterini, adesso uso il bastone. Che hai fatto levitare la cosa, è vero, mi ero dimenticato una tomba abbastanza importante. Che poi le pergamene sono cose base, tipo c'è palla di fuoco, sono cose non troppo strane, se ricordo bene. Cono di freddo, aspetta, ci guardo. Quello che faceva Arci, ma non so più. In realtà non lo so, è lì con noi. Non lo so. Tono di freddo, palla di fuoco e fulmini. Sì. Possono tornare utile. Bene. Ah, sono forte. E lo scettro era qualcosa di particolare? No. Era un bastone, una normale verga. Azionava questo meccanismo. Sì, quello mi ricordo. Ok. Altro da menzionare nelle tombe, direi di no. Cosa avevo scritto qua? Di importante, ecco, sottolineo. Sì. Il mio riassunto della sezione è: continuano ad esplorare, trovano mastini infernali e la lancia del sangue. E rompo il cazzo. Devi attivare, guarda in diretta. Sì. Bene. Se vuoi vedere la mappa. Sì. Esatto, adesso siamo all'interno della stanza di quella che è, a quanto pare, la tomba di Strahd. Oh, esatto. Ma metti che è stato menato da McGregor? Cioè, non conoscevo McGregor, però la storia è veramente... Non abbiamo ancora... Come non conoscevi McGregor? È tragicomica, non c'è altro per descrivere. Che è successo? Molti hanno detto che McGregor semplicemente ha ascoltato un po' della sua musica. Ha ascoltato una puntata del nostro podcast. Esatto. Senza sapere che era non salivamo a Milano, direi, a far serata. Comprensibile, era quello che fa MMA, tipo l'atleta più famoso del mondo, di quelle arti marziali e... Era a far serata con Francesco Facchinetti e altri. A un certo punto, dopo un paio d'ore, così pare che dal nulla si è alzato e ha tirato un gran cartone in faccia a Facchinetti. Non so, così. Da diversi testimoni hanno detto che è stato senza motivo, quindi fa abbastanza ridere. Dicono che è probabilmente uno da riabilitazione perché è drogato, dipendente anche dall'arco, insomma, è un po' così. Si è finalmente vendicato della canzone del capitano. Della canzone del capitano, esatto. Stava facendo il balletto della canzone del capitano con una variante che era il finale. Vabbè, scusate. Però in realtà si può dire che, insomma, è un mezzo sopravvissuto perché un cartone da uno così si è solo spaccato un labbro. L'avrà tirato piano. Direi di sì, perché gli ha solo spaccato un labbro. appunto, quindi se lo prende bene alla fine Facchinetti è un lamentoso. Beh, ho capito, però mi sarei lamentato anch'io, onestamente, un tantinello. Non avrei reagito, credo, perché con uno così, beh, meglio di no, però sta da venire. Esatto. Va bene, questa è la fine del riassunto, quindi siamo entrati e direi che non ci hai ancora detto nulla. Esatto. Allora, la prima cosa, quando tirate la leva, la grata si alza senza fare alcun rumore. Parte Eva aveva una leva. Eva aveva una leva. Vedi, io qua volendo posso vedere già la chat. È un po' più carino. In realtà c'era una cosa anche qua, però non lo so. Beh, vabbè, comunque ce l'hai comodo lo stesso. C'era la roba da qualche parte. Sì, ma non rischiare di fare danni, ragazzi. Stream in pausa. Ok. Vi ricordo la vostra ben amata discrezione. Il master ci ha ridotti a una misera icona. Esatto. Discrezione o discrezione? Discrezione. Dell'ultima volta che, oltre a percepire una disturbante aura di malvagità già nell'aria, e c'è anche già l'odore nell'aria. Già nell'aria malvagiata. Sniffate anche l'odore della terra che è stata appena rivoltata. E sopra questo terreccio smosso c'è questa bara di nero lucido di legno finemente incerato. E gli intarsi, le maniglie e le decorazioni della bara sono in ottone brillante. A sud della bara ci sono tre alcove. Sì, sì. E voi in realtà non so perché vi siete messi già in questa posizione tutti intorno. Non ci siamo messi. Io penso che nessuno di noi si sia messo. Io. Non so, visti i precedenti, Vez magari può dirlo, potrebbe essere stato non il master. Non so come facevate a sapere che vi avrei colpito tutti attorno. Quindi direi che faremo così. Ok. Però? C'è un però? Non vuoi entrare qui. Hai ragione, guardiamo le altre tombe. Quindi noi non siamo ancora entrati, lato pratico. Si è appena sollevata la grata. Davanti a voi c'è una scalinata che va verso il basso e conduce alla tomba. Stavolta che ironia. Che non c'è sala. Esatto. Vabbè, magari qualcuno di voi può avere l'intelligenza di dire stiamo attenti, ci sono delle trappole, ma purtroppo il mio nano non c'è. Possiamo dirlo tutti, ma il problema è che non le troviamo. Io al massimo posso avere l'intelligenza di dire sono un grande guerriero, fai il primo piano. In effetti. Ah, possiamo avere un recap veloce dei PF? Sì. Prima di affrontare una stanza così. Ma tu proprio, cioè, vuoi tutte le notizie brutte? Mi sa che... Race è full. Grazie Giulio per aver rivoltato il coltello nella piaga. Io sono 62, Ward, Vardistran, scusate, e ho 68, Garrosh 107. Mi mancano 40 punti. E sfortuna? Magari nella stanza di Strat possiamo riposare. Non saprei, perché no? C'è un 76? Io ho messo 63. Però ho anche 13 punti di vita temporanei, quindi non so come... Ah, perché non ho usato tutti gli dice l'ultima volta che si è riposati e non ho preso danni ancora. Esatto. Quindi 63 e 13 temporanei. Io forse uso, prima di entrare nella cosa di Strad, uso un coso, un second wind, un second wind, per riprendermi... Perché tu recuperi col riposo breve? Sì, io recupero tutto col riposo breve. Che figo. 13 punti ferita. Non ricordo, fatto anch'io una vera. In che campagna, tra l'altro? Il guerriero non me lo ricordo. Hai fatto il guerriero in quinta, Vez, no? Sì. Penso di sì. Il nano. Ricordo, Vez. Ma il nano guerriero non l'ha fatto tantissimo tempo fa. No, io ho fatto il quinta. Chierico sicuramente, sì. Il ladro sicuramente. Sì. Sì. Io non ho fatto il non ho fatto. No, secondo me hai fatto il nano guerriero, ma in quinta. Cioè in 3.5, scusa, che eravamo i due nani. Sì, quello sì, però io mi ricordo che avevo sto second win. No, forse no. Sarà con il gruppo di amici veri. Esatto. Anche tu hai un altro gruppo. Anche volendo non avrei tempo. Sto dicendo io perché mi è stato tutto il tempo. Un gruppo di D&D. Assolutamente. Anche se vorrei. No, non è vero. Anzi, ricordiamo che il recasting è aperto. Ah, e fra parentesi, questo mi fa venire in mente che salutiamo calorosamente un amico di Ambra. Che, di cui non so il nome, ma Sceo mi ha raccontato. Ah, di Max, di Mickey Max? No. Ah, perché sennò se ci volevamo sponsorizzare. Esatto. E, Max, praticamente da quello che ho capito, guarda ogni giorno il nostro video. È la prima cosa che fa quando si sveglia. No, non si sveglia. Da quello che ho capito, ha guardato, cioè, più volte tipo anche Alexa quel... che per svegliarlo proietta il video. Sì, è anche sì. L'ultima cosa. Assurdo! Anche per conciliargli il sonno. Quell'assurdo rimane. Noi facciamo solo intrattenimento di qualità. Comunque, e come ci muoviamo, ragazzi? Avevo già capito, ok. Vabbè, dai, avanziamo, sti cazzi. E facciamo un perception, dai, proviamoci. Mm-hmm. Non può andare dentro il gufo di qualcuno, tipo. Ce l'avete già fatto il giro con gufo? Sì. Non è... niente, il gufo non appoggia i piedi. Perception 10. Volendo sì. La mia scheda è zil. La tua scheda è là, l'ho appoggiata là, ma la puoi prendere. 3. Allora. Staccati un attimo. Sì, è meglio. Mi avvicino la sedia, faccio sì. 19. Sì. 19. Ah, 19. Bravo, anche tu. Anche sfortuna. Ah, bravi tutti. Hai già preso metà o... Ma sì, prendi. Vabbè, adesso ne prendo. Ti vediamo. No, prendi. Sì, non mi vuoi ciccio. Non ti piedi. Attenzione! Mi vuoi ciccione, ragazzi? Non sono mai un atleta. E mi alleno due volte a settimana, l'atleta è Giulio. Giulio sta per partire, eh? Mi alleno tre volte adesso. Cosa fa Giulio? Ma in palestra? Cioè, al botteghino. Ah, si è fatto la palestra al botteghino? Sì, che inverno scorso. Minchia. Ok. Allora, Garrosh e sfortuna. Pensavo di dire se Garrosh entra. Aspetta. 19. Esatto, notate dove cazzo sta qua. Notate che, oddio. Qual è il terreno che occupa in realtà qui non si vede accuratamente perché viene raffigurato solo come macchia marrone all'interno intorno alla bara. In realtà il terreno smosso occupa anche lo spazio dietro alla bara, fin dentro le tre alcove. E un breve esame nella penombra della luce emanata dalle vostre cose luminose, che, di cui adesso ormai ho perso il conto, e vi rivela che il terreno vi sembra più smosso, percorso più volte in una delle tre alcove, anzi per meglio dire, dove cazzo sta? Oddio, faremo danni per il collo, faremo danni sicuramente. C'è l'opzione di metterlo in orizzontale, ma allora aspetta, c'è così. Ok, per meglio dire, notate che il terreno è più smosso nelle alcove laterali, nella zona nelle zone ai lati. Okay. Invece al centro non è smosso? O è no, al centro è smosso, ma meno. Cioè, nel senso che la zona dove è stato smosso è più grande, cosa intendi con smosso di più o di meno? Che è meno disordinato, come dire, come se fosse, se nulla ci passasse da tanto, da più tempo, meno percorso, ecco. Ok. Vabbè, lo riferisco almeno, non so se anche su Fortuna, ma riferisco questo sui lati, quindi. E quelle due sui lati sono più smosse. La terra è maggiormente smossa. Lo vedi? Che quel pezzo di terra. Ma scusami, smosso. Questa è la terra attorno alla tomba, giusto? No, le tre alcove. Scusate. Quelle ai lati hanno il terreno più smosso. Quindi è terra quella per terra. No. Sì. Non ha un terreno roccioso come si vede nell'immagine, diciamo. Esatto, l'immagine è fuorviante perché la raffigura solo intorno alla bara, in realtà è ovunque, anche dietro, fino al muro dietro, ecco, okay. È ricoperto di terreno. Okay. Ti direi che potevano essere quelle delle cose, sì, però in realtà abbiamo scoperto che bene, abbiamo visto solo dei progeni. Un'altra. Cosa? Giulio? Giulio ha chiesto di andare a ricontrollare le tombe che avevate. Ne abbiamo viste solo Giulio, due. Ok, torniamo tutti alle tombe. Non credo che abbia detto questo. Torniamo tutti ha alle tombe. Ha davvero detto questo? No, a ricontrollare quali allora. Ci sono. No, ha detto che solo due... Solo due tombe abbiamo trovato che c'era scritta moglie. Una era quella di Irina, che sì. Sarà di Irina, e l'altra era quella della sorella, mi pare. Di... Attenzione, Kevin. La sorella di Kevin c'era scritto bride, che è sposa. È vero che c'è la differenza tra promessa sposa e non sposata. Era in Irina c'è scritto wife, e poi ce n'era un'altra di Sasha Ivliskova. Ah, è vero. Che era il numero 20, che non mi ricordo neanche più chi era. Sì, c'era anche questa Sasha Ivliskova. C'era proprio scritto ma non c'era scritto il ruolo Sasha Ivliskova moglie. No, anche lì moglie. Esatto, ma è un nome che voi non avevate mai letto prima. Così va bene, Katta. Perfetto. Bene. Quindi quelle sui lati sono più fresche e potrebbero essere. Quindi noi non sappiamo esattamente quanti mogli abbia. Scendendo qui sotto avete scoperto che ce ne sono più di quelle che avete visto. Quindi, allora facciamo un recap. Di questa qua non conoscevate l'esistenza, ad esempio. Il nostro obiettivo qui è? Allora, il recap era, il motivo per cui siete arrivati qua, che voi ormai dopo diverse scorrerie con i vampiri e le vostre investigazioni nel scoprire l'origine del loro potere e le sue caratteristiche, sapete che una volta che un vampiro viene sconfitto, quello cambia la sua forma fisica per poi andarsi a riformare nella sua tomba. Ora, quindi, quello che nessuno di voi ha formulato chiaramente, ma io diciamo che ho inteso il senso generale. Attenzione, però. Basta. Scoprire la sua tomba, così quando lo sconfiggiamo, poi arriviamo lì e lo uccidiamo. Esatto. Sì, cioè, noi in teoria dovremmo sapere dov'è e come ci succede. Ma noi in realtà abbiamo già fatto, cioè, per questo Vez, noi non volevamo venire dentro la tomba. Scusa, ma se la distruggiamo? Allora, se fosse un vampiretto da 4 soldi, allora sarebbe spacciato. Ma se trattandosi di uno stratega dalle abilità leggendarie, sì, potete supporre che sia troppo facile come si entra. No, nel senso, dici che ha un piano B. No, anche C e D e fino alla Z. No, perché dicevo, questo... se noi distruggiamo questa, poi lo sconfiggiamo, lui non ha un posto dove andare. Ma secondo te Strad von Zarovich non ha X mila altri posti dove andare? Invece tenere questa per fargli un agguato, diciamo, per sapere che verrà qui e venire sconfitto definitivamente. Almeno sai dove trovarlo per ucciderlo definitivamente. Quindi stai dicendo che è meglio aprirla e metterci direttamente uno spuncione all'altezza cuore, così appena si materializza dentro. Io ci metterei Vardistran ad aspettarlo. Esatto. Dai, in realtà sì, io volentieri lo faccio. Ti metti nella bar e attendi. Beh, così faccio un altro cazzo di riposo. Sì, ma questo è eterno. Esatto. Beh, faccio la parola. E secondo me è il sogno ormai di Vardistran. Basta fare un po' di buchi eterno sulla bara, dai. Quindi l'idea è tipo sigillarla in modo che lui non possa entrarci. No, il concetto di base è ora noi sappiamo che dobbiamo arrivare qua. Quindi bisognerà muoversi ad arrivare qua. Se dovessimo uccidere, dovremmo muoversi ad arrivare qua. Okay. E soprattutto ci sono degli impedimenti. Esatto. Infatti, io quello che farei è devastare sto cancello che si è aperto così facilmente. Perché secondo me non si aprirà così facilmente. C'è la leva. Che può sempre avere la leva. È l'unico passaggio per entrare in questa stanza. Sì, però è un po' facile. Che si entra da qua non ne vedete altri. Poi non si sa che cosa c'è dentro, non ci siete ancora entrati. Di nessuno si muove, fa qualcosa, no? Arriva. Come cazzo si chiamava? C'è la bacchetta di sale, in teoria rileva eventuali porte segrete. Le porte segrete, one of... Magari ha un altro passaggio. Che altro fatto che... si apre dall'interno. Lui l'ha aperto dall'interno usando mano magica. Magica, esatto. Però per dire, se non dovessimo avere Salla, già tipo questa non l'apriamo. Anch'io mano magica. Già non dovessimo avere Salla, è sfortuna. Sarebbe una vera sfortuna. Vi toccherebbe alzarla forza. Io. Ma ne hai preso tutto? Sì, ho preso tutto. Sì. Prendi tutto. Prendi. Mi vuole un ciccione. Ma no, l'ho preso la mia parte. L'ho usato anche più del necessario. Però, veramente. Allora, vogliamo esplorare oppure lasciamo stare? Cioè, la situazione qua, cioè, secondo me, dobbiamo esplorare. Ma se entrare implica che magari lui in qualche modo sa che siamo qui, non è peggio? Non lo so, questo non è dato sapersi, perché dovrebbe saperlo? È una valutazione che dovete fare voi. È la sua tomba, magari ha delle sorte di allarmi, non lo so. Voi sapete che dovete arrivare qua, ma in quella terra, averlo guardandola sconfitto. Da qui... Mm-hmm. È possibile che ci sia qualcuno dentro o è smossa e quindi si capisce che vuoto, cioè si può intuire? Potrebbe esserci qualsiasi cosa, non sai quanto è fondo. Tra di noi qualcuno sa come si uccide un vampiro o no? Bene, abbiamo già avuto a che fare, no? Quindi, sì, e soprattutto qualcuno di voi ha anche il tomo oltre ad aver visitato il tempio dove il vostro amico... Pensavo che dicessi che qualcuno Thunder. Di voi era vampirismo. Quindi. Vabbè, no, non ancora, perché deve ancora esaudire le condizioni del patto. Ah, quindi comunque, Tomo, c'è anche... perché abbiamo già visto che non saranno facilmente... No, Giulia, abbiamo già capito, devi uccidere. Un escamotage lo troviamo, dai, non è difficile. Allora, addirittura l'unica soluzione, ecco, è qua. Beh, per me nulla è impossibile, sono il master. Quindi, cioè, tipo, l'ultima puntata, tipo, Giulio si innamora. Persino tipo... fargli fare 80 sessioni ed essere ancora lontani dall'arrivo. Lontani come? Ormai siete qui. È da una vita che lo dici. Beh, in realtà tipo Giulio magari tipo esce alla fine, no, ho sempre amato Irina. Colpo di scena. Allora, sapete che le caratteristiche dei vampiri sono sono dei mutaforma, quindi possono diventare, se non si trovano nella luce, sotto la luce o nell'acqua corrente, in un piccolo pipistrello o in una nuvoletta di nebbia. E pensavo anche il lupo. Basta far passare un fiume da qui, insomma. Esatto. E, dopodiché sapete che hanno, quando vengono sconfitti, diventano una nuvoletta di nebbia. E, non possono ritornare nella forma vampirica, ma devono arrivare entro 2 ore al posto di al loro riposo, alla loro tomba. L'idea è sconfiggerlo, farlo diventare una nuvoletta e poi sconfiggerlo definitivamente mentre è una nuvoletta. No, quando finché, torna lo impara. Finché è nella si sta riposando in questo modo, è paralizzato. Okay. Finché non recupera almeno un punto vita e lo recupera automaticamente dopo un'ora di riposo. Quindi c'è un'ora che deve passare, a meno che non ci sia qualcuno che lo cura, però non è morto, non può essere curato, chissà. Va bene, quindi piantargli un paletto in quell'ora. Esatto, solo l'unico modo per ucciderlo in quell'ora è con un paletto. Arrivo, ci sono poi adesso, adesso c'è la lista anche delle debolezze. Lui riposa finché non recupera almeno un punto vita, quindi si può alzare. Ma in quell'ora lui non è una nuvoletta? No, lui ha. No, è paralizzato. Diventa una nuvoletta e ha 2 ore per raggiungere la tomba. Una volta raggiunta la tomba ritorna nella sua forma e sta riposando per un'ora. Allora, l'altro tratto è la rigenerazione. Quindi non dobbiamo manomettere la tomba perché lui deve poter riconoscere di andare lì. Quindi distruggere il cancello potrebbe non essere una grande idea. E, oltre a questo anche i movimenti del ragno, e poi c'è le debolezze vampiriche, quindi non possono entrare una residenza senza un invito da uno degli occupanti, sono danneggiati dall'acqua corrente. Ma geniale, compriamo il castello. E se e poi lei c'è la debolezza non è invitato, Conte. No, del paletto nel cuore, quindi se un'arma perforante fatta di legno attraversa il cuore di un vampiro, quando è incapacitato nella sua nel suo posto di riposo, il vampiro è paralizzato finché il paletto non è rimosso. Ah, non dice che ce l'abbiamo tutti nel Monster Hunter Pack, vero? Sì. Potersi. E poi hanno le ipersensibilità alla luce solare. Quindi il paletto lo paralizza, non lo uccide. È vero, il paletto lo paralizza, non lo uccide. E cos'è che lo uccide? Cos'è che lo uccide? È mortale, non può morire. Beh, che domande fai? È strano. Forse dargli fuoco. Uccide. Hai detto qualcosa, Giulio? Ma non lo so. Il tuo medaglione lo uccide. Il tuo medaglione lo uccide. Ottimo. Ma normalmente un vampiro come si uccide? Tipo decapitandolo, cose di... Ma noi come lo sappiamo cosa lo uccide il vampiro? Da tutte le informazioni che avete raccolto nei vostri viaggi e negli oggetti che avete. Nel tomo anche ci sono tutte queste cose che stai dicendo. Hai nominato il tomo. Sì, anche se sono più difficili da reperire. La cosa più facile è stata quando le avete chiesti a Exethunder, che vi ha raccontato sì. tutto quanto di qua che sapeva riguardo al vampirismo. E come muore? Perché lui va a zero. Va nella tomba, è paralizzato lì a zero punti, arrivi tu, gli pianti il paletto nel cuore e lui rimane lì a zero punti, però non sembra che non muoia così. Che senso ha? Vabbè, facciamo che una volta fatto, direi che possiamo anche dire che ci saluta. Forse qualsiasi momento è paralizzato. No, è paletto che lui non può, cioè è tipo bloccato. È paralizzato. Però c'è da dire che aspetta, dov'è? Un domani e se lo bruciano togliergli. Infatti che io pensavo dargli fuoco. Ah no, ok, perché finché è in ma sei sempre destroyed. Perché se finché è nella forma di nebbia e non riesce a tornare nella forma vampirica entro due ore, viene distrutto. Quindi in teoria, se noi gli impediamo di tornare alle sue tombe, insomma, luoghi, in due ore lui è distrutto. Però, come dite voi, avrà un piano B se noi distruggiamo questo. Sì. Quindi dobbiamo fare in modo di intrappolare la nebbia in una bottiglietta e tenerla per un paio d'ore. Ma anche più semplicemente, se avete e l'avete accesso alla luce solare, o acqua corrente, lui non si può trasformare se è nella luce o nell'acqua. Quindi tenerlo se non per due ore. E se non si trasforma è distrutto. No, quando ha zero punti vita. Quindi in realtà l'acqua della bara è inutile, perché lo uccidi, l'unico modo per ucciderlo è ucciderlo. Scusami, quindi se noi lo facciamo andare nella tomba, gli piantiamo il paletto, quindi lui rimane a zero paralizzato, e gli spariamo dalla grande luce solare, in teoria muore. Sì. Quindi potenzialmente possiamo prendere di peso la bara e portarlo fuori, mentre lui è paralizzato. Ma la luce normale del sole in Barovia non conta come luce solare. Ma questa sì! Quella sì. Sto ancora con sto Giulio. Ma noi non abbiamo le spade che emanano luce solare, quindi quando lo uccidiamo sarà già in luce solare. Quello può essere. Attenzione, è vero, bravo. Vedi, questo è il Bosi giusto. Bosi giusto dice cosa? Scusa, okay, è Vetta un medaglione che incenerisce i vampiri e gli fa 2 milioni di danni. Non so di cosa tu stia parlando. Esatto. Come funziona esattamente? Ma cosa che l'ho dato io? Sunlight. Come funziona esattamente quel medaglione? Ha delle cariche che devi... No, quello sì, ma cosa fa? Che cioè, devi spendere. Non credo che per chi tu incenerisce un vampiro, così, secco. Saranno determinate condizioni, immagino. Beh, ce l'hai tu, cosa fa il... Fa un botto di danni. No, è vero. Sì, ok, vabbè. Ma perché magari basta andargli davanti a strada, gli punti quello in faccia e è finita. Ma non credo. Vampiri... No, aiuta. No, sì, certo, per carità. Certo. Però tu hai detto incenerisce i vampiri, quindi ha qualcosa di particolare contro i vampiri? Beh, ce l'hai tu, vi ricordo. Allora, qualcuno il simbolo segnato da qualche parte? Il simbolo ha 10 cariche e ad ogni alba se ne ricaricano un di 6 più 4. Puoi fare tre cose. Come si chiama? Blocca vampiro. Con un'azione spendi una carica, mostri il simbolo sacro che fa un flash di potere sacro. E i vampiri e le progenie entro 30 piedi devono fare un tiro salvezza CD15 sulla saggezza. Se lo falliscono, sono paralizzati per un minuto. Ripetono il tiro salvezza alla fine di ogni turno. Poi, con un'altra azione, puoi spendere 5 cariche per mostrare il simbolo sacro e far sì che emani luce intensa in 30 piedi e luce fioca in altri 30 successivi. La luce è considerata è considerata luce solare e dura per 10 minuti o finché tu decidi di fermare. Quindi l'effetto. Ho 10 carichi, mi hai detto. Quindi lo paralizzi. Questo vale una carica? Questo Sunlight vale 5. Lo paralizziamo, lo uccidiamo, lo andiamo di là, lo impaliamo e lo sparaflesciamo. La terza cosa è scacciare non morti. Se tu hai scacciare non morti o turn the unholy, non so quale sia, puoi spendere 3 cariche, mostrare il simbolo e quando lo fai i non morti hanno svantaggio al tiro salvezza contro l'effetto di scacciare. Qua possiamo farlo che paralizzi, cioè ci può aiutare a paralizzarlo durante lo scontro eventuale, no? Lo uccidiamo, quando siamo di là lo impaliamo, tu puoi sparafresciarlo con quello. Quando siamo, quando abbiamo bloccato. Cioè abbiamo la luce solare che ci serve per eliminarlo. Non si può scoprire niente. Però prima dobbiamo sconfiggere. Qual era l'idea di Giulio invece? Usare il cazzo di medaglione, quello che abbiamo. Ok. Bene. Ok, però rimane. Ha mandato nella chat. Come succede vuol dire? No, non funziona il medaglione. Esatto. E rimane okay. Il dubbio, cosa facciamo qua? Entriamo, diamo un'occhiata, ignoriamo. Che è rischioso ignorare così. Che dobbiamo esplorare il tema. No, non lo so, voi che dite? Cioè, per non aver sorprese magari poi. Quando sarà ora di venire qui con Strad. Esatto. Che ha tipo un esercito nascosto, magari sconfiggerlo prima può essere comodo. O eventuali trappole o... Ma abbiamo mille modi per fare la luce solare, se non stiamo certi che quando lo battiamo abbiamo della luce solare, così non si trasforma. Sì, però se poi veniamo qui non c'è solo Strad, ma un botto di roba. Appunto, lo ammazziamo una volta, non lo ammazziamo due. Il discorso della porta segreta, di un'eventuale porta segreta? No. Perfetto. La bacchetta lì non le percepisce. Okay. Non ci sono porte segrete nei 30 piedi intorno a voi. Quindi l'intera stanza? Praticamente sì. Boh, io entrerei, raga, dai, entriamo. Siamo venuti fin qua per vedere la tomba di Strad. Beh, in realtà va detto che se ci sono altri problemi, abbiamo il tempo per affrontarli, però. Vabbè, abbiamo aperto 12.000 tombe, mo ti fai... Eh sì, però abbiamo bisogno anche di tutta la nostra capacità. Tu, Giulio, che dici? Cosa voglio... Ah, volete esplorare le terre? Io sarei per entrare, almeno dare un'occhiata. Ma per entrare e dare un'occhiata possiamo farlo fare a... A chi non c'è? All'anchilosauro. No, ai famigli delle persone varie. Beh, il gufo è già entrato, non ho capito se ha visto qualcosa o meno, direi di no. No, ha visto quello che avete visto voi adesso. Non ci sono altre cose strane. Possiamo anche entrare a fare un'occhiata. Cioè, l'importante è che Strad non sia lì, insomma. Perché se noi entriamo e poi si apre la bara, potrebbe essere... Beh, anzi no. Scusa, sarebbe meglio in realtà. In realtà, esatto. Sarebbe troppo comodo. Buongiorno, amici. Non ha senso che sia qua. Sarà su con gli ospiti. Grazie, mazza. Vez, ti saluta Ambro. Ciao. Cioè, ci saluta Ambro. No, solo a te, Vez. Ti saluta. Solo a te, Vez. Avevi scritto proprio ciao, Vez. Zitto, Vez, zitto, Vez. Ciao, ragazzi. Zitto, Vez. Zitto, Vez. Chi è che usa Stino? Chi saranno? I Bosi? Sono? Sì. Tutti e due? No, solo uno. Uno è Cat. Allora. Okay. Giulio, credo sia Giulio Bosi. Grazie. Comunque, sì, dai, entriamo. Poi, dai, che entriamo. Io entro, basta, dai. Va bene. Garrosh entra. Vardistran? No! Ha detto va bene con un tono che... Vardistran, sì, siamo nello stesso schermo. Dobbiamo stare vicini. Lo seguo, ma a 30 piedi di distanza. Lo seguo, ma in modo circospetto. Eh sì, okay. non è che io entro caricando la bara, passeggio normalmente adesso. Come no? Atanas. L'ho pensato, sarebbe stato figo. Io la prima cosa che ho detto, distruggiamo. Mi sembrava la cosa più ovvia. Io faccio quello che fa Vard. Tu fai quello che fa Vardistra. Sfortuna. Io faccio il segno dell'ombrello e rimango all'ingresso. Il segno dell'ombrello. Bene. Nel momento in cui muovi i primi passi all'interno della stanza K86, un alone di magia illumina una delle alcove laterali. Beh, non ho detto che sia una cosa brutta. La magia è anche bella. Infatti. Sì. C'è tipo l'accoglienza, un maxi schermo che si accende e ci racconta la storia del castello. Per i turisti ci sarà qualcosa. Allora, sta pensando una cosa. Cioè, una cosa che ok, nella alcova a est, quindi questa. Si illumina un circolo di teletrasporto. Da questo tre figure. Che avevo detto da questo entrare. Spuntano tre figure. Giulio. Che veramente. Ma non era rotto il coso del teletrasporto? Non credo che una... sia il. Una domanda il braciere eccellente, ma esatto, non notate fiamme di alcun colore. Beh, forse non dovevamo entrare. Beh, però almeno sappiamo cosa ci aspetta quando ci dovremo tornare. Prima o poi avremo il teletrasporto, vedi? Davanti a loro vedete niente poco di meno che Ludmilla Vilisevic, l'ultima moglie di Strad. Eh beh, non c'è due senza tre. Esatto. È una donna molto affascinante, alta, di carnagione scura e riccamente vestita. Parli? Dietro di lei ci sono altre due progenie vampiriche. Vabbè, usciamo. Se usciamo tornano via. No, non funziona così. Tipo, scusate, abbiamo sbagliato. Cercavamo il bagno. Bene, chi è? Due progenie. Te l'ho appena detto chi è. E la tizia. Esatto. Quindi tre progenie. Ho 10 cariche, tu mi dici, della cosa, giusto? E ogni giorno all'alba si ricarica. Sì, vabbè. Vabbè, che ore sono? Cioè, che momento è della giornata? Non lo so, penso siano... Deve essere un cazzo di matrimonio, non credo che sia l'alba. Esatto. Vabbè, magari è sera. Non vedremo l'alba. No, dovremmo essere più o meno a metà giornata. È il momento di provarlo, sto medaglione. Però li puoi paralizzare, ma non usare l'altra perché sono 5 cariche l'altra. No, l'ha messo qua Discord. Sì. Dove l'ha messo? Nella generale. Generale, che tagli quello, quella cosa che si è per sopra, sopra quella lì, questa mezza, chiudila. Oddio, chiudila. Cos'era quello? Era un po' cosa che ti spiegavo. Sembra venuto. All assembled stand charges to be expanded. Tu usi una carica e loro devono fare CD 15 sulla saggezza. Oppure 5 cariche per la luce. Però 5 io non le sprecherei adesso. Però puoi usare una carica per provare a paralizzarli. E paralizzato nel momento in cui però lo colpisci si sparalizza. Non sembra. Ogni turno fanno il tiro a salvezza, ma. Ok. Beh, quindi potrebbero rimanere paralizzati potenzialmente tutto il scontro. Se sei cioè, se siamo fortunati con i tiri. Come mai questa volta non proviamo a fare parlé? Di solito lo facciamo sempre. Oddio, volete provare? Non saprei. Parlé? Sarebbe un'azione sprecata. Beh, parlé, dai, provaci. Il paladino ci proverebbe. È una donzella in pericolo, magari. La donzella in questione, quando si teletrasporta e vi vede, vi dice: avete infranto la sacra ospitalità del mio maestro per l'ultima volta. E dalle sue mani comincia a emanare del potere oscuro. Quindi parlé, capito bene? Tirate l'iniziativa. Esatto, però non è che ha un'azione buona. L'impilo così. Sì, che voglio sui patroni. Possiamo anche mettere quanto spazio ne abbiamo. Sì, io questa massa qua. Iniziativa. Dai. Così vedo in diretta i tironi di iniziativa. Di... Boh! Come è possibile? Ah! Il verbo! Ha fatto 20, raga, io ci credo. 20 naturale. 19 più sarà l'ultimo comunque. 21. Ha fatto 13. Garrosh 21. Sì. Vabbè, tiro con vantaggio però. Athanas 7. Grande. 4. Scusate, ho dovuto aggiornare la scheda fisica che era qui da Vez. Ho dovuto aggiungere ben un livello. Dopo non so quante sessioni, c'era un solo livello in più. How to eat every... Ma cos'è? Giulio, quanto hai fatto? Aspetta. Sei secondo. Ok, bisogna vedere. Ok, Garrosh, cosa fai? Ma tipo, non è possibile che lui mi urli tipo aspetta, uso il medaglione. No, perché in teoria cazzo ne frega. Perché magari aspetto che li paralizzi prima di che parli. Perché? No, è uguale, tu dici. Certo. Va bene. Tanto se colpisci prima tu. Ma da paralizzati forse è la loro classe armatura. Tagli le mani di quella che sta facendo le cose. Hai detto che loro falliscano il tiro. Va bene. E niente, carico. Va di nera, dite? Sì. Direi di... Aspetta che controllo se ne avevo usato. Arrivo, Guardo un secondo. Quanto hai fatto, Marco? 13. 13, Pietro l'ultimo arrivato. Arrivo. Ma che è l'ultimo ad andarsene? Allora, io ne ho 4 al giorno, ne ho ancora 3, quindi sì, va di mira. Va di mira e carico. Vai. E sai che c'è? Uso attacco incauto. Ok. Vado ovviamente sei sulla tipa. Ok. Che cazzo stai? Come quando sei entrato, sono incauto. 16 più 8, 24. Colpito. Vabbè, nessuno di noi ti ha voluto fermare davvero. Nessuno di noi sapeva cosa fare. Hai la lancia? Sì, di longino. La lancia. La lancia di longino. Tiro solo un D6, però. Buttalo via. D6 più? Più 4, quindi 9. E poi posso fare l'attacco extra, siccome era... Scusami, ma perché non la puoi usare con due mani? Sta ascia. Ho lo scudo. Ah, tu sei un barbaro con lo scudo. Sì, così ho capito. Beh, è da 3 anni che ha lo scudo, Vez, porco giù. È un barbaro che punta sulla sicurezza. Non ci faccio caso a queste cose, raga. E posso rompermi le balle? Mi ricordi se l'attacco incauto vale per tutti? Secondo me sì. Secondo me è il primo. Per ogni, tutti... ogni volta tu dici il primo, ma secondo me invece è tutti. Guardiamo subito. Comunque se faccio... subito, tipo, sul manualino, tipo Kat, cosa dire? Mi sembra di... Io direi tutti e tutti quelli che ho contro, però... Quando fai il tuo primo attacco nel tuo turno, puoi decidere di attaccare incautamente. Facendo questo, prendi vantaggio su il tiro di attacco che usa la forza durante questo turno. Quindi ma gli attacchi contro di te hanno vantaggio fino al prossimo turno. Quindi che usa la forza. Quindi tutti. Ah, dice, quando fai il primo attacco, puoi decidere di attaccare. Quando faccio il primo, decido che per questo turno faccio incauto. Quindi l'azione di attaccare è che dice ti dà vantaggio ai tiri al tiro singolare. Minchia, se lo guardiamo. Però non ha senso che io ne abbia solo uno di vantaggio, ma abbiano tutti vantaggio contro di me. Ah no, mi rivepano attacca a rolls. No, è plurale. Quindi tutti, vero? Ok, però lo devi decidere. Io l'ho fatto. Lo devi decidere al primo. Sì, sì, il primo già tirato l'ha detto prima che tirasse. Quindi vale. Ok. Attack rolls. Se usi la forza. Però devi usare la forza, non me l'hai detto. Potevi usare la destrezza. Simpatico. Vai, faccio il secondo, quello extra. Sì, ma in realtà è già suicida usarlo, perché è lì da solo in mezzo a 3 vampiri e adesso dà vantaggio a tutti. 19. Questo è un 6 più 9 sono 15 danni. Non ho tenuto presente che sfortuna può fare col secondo attacco e l'ultimo attacco definitivo. Solo 16 per colpire. Tirato bassissimo. Come se usciamo tutti? Ah, aspetta, scusami, aggiungi 6 danni 3-3, me l'ho dimenticato, quelli dell'Iro. La colpisci lo stesso. Oh, grande. Quindi dei primi 3 attacchi, dei primi 2 attacchi aggiungi 3-3. Ero dimenticato. Fatto. E l'ultimo sono 4-3-7-2-9. Ok. Colpire? No, no, i danni. Bardistran. Proviamola sta mossa, dai. No? Dite che è uno spreco, dite che non dovrei... Beh, mi paralizzi. Dite che non dovrei giocare. Una carica la possiamo usare adesso. Siamo contro 3 progenie vampiriche, cioè. Ci sta. Sì. Sì, sì. Assolutamente, sì, sì. Cioè, paralizza potenzialmente tutti e 3. Sarebbe un vantaggio. Guarda, se avessimo avuto l'anchilosauro avremmo potuto giocarcela anche senza, ma visto che non ce l'abbiamo. Sì. Senti, la proviamo. Domanda, come vedo questi colpi su Ludmilla? Sono efficaci? O... No, dico... Cioè, mi dà l'idea che siamo... è tipo l'ho scalfita appena e sarà lunghissima o... O vedo che comunque incassa bene. No, incassa bene, però insomma, l'hai ferita. Okay. E allora io gli dico, tipo, io faccio rispondendo a lei che dice l'avete offeso il mio maestro per l'ultima volta. E io gli rispondo, e voi avete servito quel vigliacco del vostro maestro per l'ultima volta! Che arroganza. Non hai controllo la volontà del medaglione. E niente, devi tirare tu, credo. Sì, devo tirare io, ma meglio non prendere cose, per favore. Abbiamo qualcosa che possa rappresentare il medaglione. Appunto, non prenderne, per favore. Io ne vedo una là. Anch'io la vedo, esatto, la prima cosa a cui pensate è stata quella. Quindi per favore non prenderlo. La testa, no, quella di legno lì. Sì, la testa. È una testa, bravo. Posso fare col tappo di sughero, guarda. Non è la stessa. Più 6, wow. Ok. Le due progenie vengono paralizzate. Lei lo supera. No, aspetta, 15. Ah, ha fatto proprio 15. La porta. Una viene paralizzata, le altre due lo superano. È stato proprio sprecato, è inutile. Peccato. Vabbè, oh. Forse dovevo fare quello da 5, buone. Ti muovi da lì. Beh, tanto ho fatto la mia azione di merda. Tanto una rimane paralizzata almeno. Ti muovi da lì? No, non mi muovo. Quanto sono da me? 30 piedi. Non mi muovo. Quanto ti muovi? Ok. Ti muovi. Sì, di 30. Quindi ci arrivi a te. Quindi mi arrivano addosso, sì. Però. Scusami. Non li facciamo spittare. Uffa. Stupido. Vabbè, va bene, dai, se Sceo c'era arrivato. Okay. 25. Sono 25 da te. Allora. Ok. Ludmilla, visibilmente contrariata dai colpi che gli hai inferto. Emana dalle sue mani un'ondata di energia positiva. Questa energia si incanala nel terreno e dopo un istante di tenebroso silenzio cominciano a spuntare una serie di tentacoli ectoplasmatici in un quadrato di 20 piedi di lato. Ti avvicinare. 20 piedi. Quindi sarebbero 4x4. Quindi sarebbe una cosa che fa così. 4x4. Ok. 4x4. Ah, ottimo, sì, perfetto. Mi piace. Ah, dove gli pare? No, più su. No, dai, che bastardo, sono io. Vabbè, la prendeva tutti. L'hai attaccata, ma lei non vede che cosa c'è laggiù. È cieca. No, beh, ci sono, siete sopra le scale, cioè sono i muri in mezzo. Sì. E un barbaro nano arrabbiato. Il loro numero non conterà nulla. Allora, come funziona? Niente in realtà, perché ok, tentacoli temporanei, Garrosh. Hai ancora i punti ferita temporanei? Ho ancora i punti ferita temporanei? Come se siamo fumati tutti allegramente per recuperare la lancia. Quel di 6. Bosi 2? Ho ancora i punti feriti temporanei? No, per la... Ah, scusa. No! Non ok. In realtà per adesso non succede niente perché hanno effetto all'inizio del tuo turno. Sfortuna. Vabbè, io sento un po' di casino, mi affaccio. E poi torno. No, spara una palla di fuoco, cosa ti affacci? Non ho capito. Vabbè, beh, guardo com'è la situazione, cosa vedo. Vedi che la stanza è riempita di tentacoli neri di Edward. Prega, non facciamo in fondo. Cioè, tra l'altro anche una pergamena. Il tuo amico Garrosh che sta combattendo in mezzo ai tentacoli, prega, contro tre figure oscure. Possiamo cazzeggiare, cioè metà della compagnia non l'abbiamo, quindi cerchiamo di... Vuoi sprecare così a farla di fuoco le mani di altri livelli? Almeno fare un Eldritch Blast, però ecco, non far tipo la cosa che vai lì e fa ah, ma quindi si gioca, quindi si combatte, cioè tipo alla Giulio, perché non ce la possiamo permettere. Quando mai? Se avessimo Giulio, che è uno zio, se fosse Giulio, avessimo Giulio, che è uno zio, allora Giulio sta lì, tipo, sta tre turni a non far niente, la gente muore, poi fa, giusto, sì. Aspetta che richiudo la porta. Schiocca le dita. E tipo, si è creata tipo la voragine. Sì, era così davvero. Ma quindi ne vedo qualcuno più minaccioso. Capito, ma non è che cioè, adesso questo terrore di come io giocavo l'Obsidian, cioè, tanti anni fa. È successo molte volte. Ci ha traumatizzato. Vedi che quella che con cui ma non lo nego, combattendo... Atanas non l'ha mai fatto. La tipa contro cui sta combattendo Garrosh è... sembra di rango più importante rispetto alle altre due. La cosa peggiore che ha fatto è stata quella della finestra, che però è una logica. Allora le sposto la maledizione addosso come azione bonus e faccio due Eldritch Blast. Sì, ragazzi. 18 e 20. Però, naturale? No, non naturale, con i modificatori. No, colpisce. Cypher delle volte diceva proprio, no, io oggi non combatto. 21, 10 danni il primo e 11 il secondo. Aiuti per favore ad aprire la porta, no? Pacifista. Anzi, la posso chiudere? No, mi ricordo una volta che tipo degli orchi hanno fatto un'imboscata e Cypher era stato seduto sul cavallo. Sì. Ma i tentacoli sono tipo concentrazione, immagino. Esatto, ho superato la concentrazione. Tutte e due, perché sono due attacchi diversi. In teoria. Tutti e due. Damn it. Vabbè, io ci ho provato, divertiti con i tuoi tentacolini, Garrosh. Non hai provato il dissolvi magie? No, no, era colpita, ma ha passato la concentrazione. C'è solo che usare un altro dissolvi magie. Ok. Colpisci da forte, così non passa. Esco dai tentacoli, è buono. No, ma all'inizio del tuo turno già ti fa male. Quanti danni faranno? Poi esco, tanto io... Non posso usarlo, Regal Dispel Mage, mi dispiace. In teoria io posso uscire abbastanza facile. Non passerà sempre concentrazione, adesso la smazzolo di nuovo. Cioè, okay. Io posso fare un Misty Step. La progenie, che non è paralizzata, prova ad attaccare Garrosh. Fa il primo attacco con vantaggio, in quanto lui è stato incauto. Ed è proprio un 20 questo. No. Vabbè, 20 con 1, ma vediamo col vantaggio quanto fa. Esatto. Non ho abbastanza di 4. Cosa? Beh, peccato, sì. Niente, dovrei tirare esatto. Un po' meno. Sì, ce l'ho. Allora, un primo... Non posso tirare. La prima artigliata, ma posso tirare, posso dire voi. No. Vabbè, la prima artigliata fa 12 danni. Quindi 6, esatto. Vabbè, non è male. Non è magico, no. Una carezza. Non sono tanti. Esatto. E il secondo attacco colpisce. E 19, comunque la CA non è che è 12-13, ma io ho tirato 18 di dado anche il secondo. L'unica speranza è che gli assicuri, e questo vabbè, il problema sono gli incantesimi, per dire. Lui non ti fa danni, bensì ti prende in lotta. Prende in lotta, quindi cos'è? Prova contrapposta di forza? No, invece di farti danni la progenie vampirica col suo attacco con gli artigli, invece di fare danni, può decidere di prendere in lotta il bersaglio. Quindi sei in lotta con lui, quindi la vostra velocità diventa 0. E devo fare, immagino, qualcosa io per liberarmi. Se ti vuoi liberare, sì. Atanas. Potrei provarlo sto bagaglio, intanto alla fine con Strab non funziona. Ma quindi sono in lotta reciproca o sono in lotta se paralizzi lei spariscono anche i Grapple, che lotta conosci tu? A che distanza sono le progenie? Devo trovare un modo per farle avere un svantaggio. Da te sono 25, se mi ricordo bene. Se lei passa concentrazione, ma se la paralizzi in teoria spariscono e basta. Sì. Vantaggio al tiro salvezza? Sì. Sono a 25. Il terreno con i tentacoli è accidentato. Cioè, il punto è questo: io mi devo tenere 5 per eliminarlo. Se lo vedo bene, però... sì, sarebbe meglio. Purtroppo ho già usato, cioè, già non posso averne 2 da 5. se rifai questa, quello da 3, se rifai questa, già che blocchi le due progenie, è buona. Poi fate dei danni a distanza a lei. Devo, devo capire questo 3 cosa fa. Quello da 3 cosa fa? Le 3? Tre cose. No, ma non sprecare adesso tutte le cariche che hai, scusa, dopo non sappiamo Strahd, tipo, sì, ho capito, ma questo qua tipo CD 15 con Strahd non funzionerà mai. Sì, ma metti che abbia un esercito di mini minions, blocchi gli altri. Posso cercare di devo capire sto qui da 3 se è utile o meno. C'è? Di no, lì in generale lì... di saltare qua, tipo. Sì. If you have the turn undead, sì, ma dovrei, ti dovresti usare la un'azione per fare una prova di atletica. Se io entro, devo usare due azioni di movimento per arrivare là. Quindi tanto vale, cioè questo turno comunque non attacco, quindi tanto vale andare qua. E puoi fare un'azione per saltare lì e poi usare il tuo movimento per avvicinarti. Esatto, posso farlo? Sì. Ok. Devo fare qualche prova, athletics. Penso che tu abbia un modificatore talmente alto che sia impossibile per te fallire. Ok, mi piace non fare prove. Sì, boh, un più 11. Sì, sti cazzi. Di forza. Cioè. No, di forza, più... esatto, qua, vediamo, cioè, puoi andare anche a zoppo galletto con la gamba potata e poi mi muovo in avvicinamento, immagino che arrivo tipo qua. No, che cazzo faccio, ho fatto uno screenshot. Allora sono 10 ad andare in qua. Volendo ne hai altri 20, puoi arrivargli addosso. Ah, vabbè. Se ti fidi a camminare su quella terra un po' smossa. Vabbè, è sempre meglio che camminare. Beh, io ci sono già sopra e non è successo niente. Cioè, nel senso, nient'altro, ecco. Che cazzo, vieni qui. Oh. Ecco qua. E vediamo se la tipa che è stata paralizzata si sparalizza. Si sparalizza. È inutile sto... Si sparalizza quando? Alla fine del suo turno o all'inizio? Torna... Sì, ma cavolo, ma tirano un più 20 sulla salvezza, sul wisdom? No, ma ho tirato altissimo io. Alla fine di ogni turno. Alla fine del proprio turno, quindi... At the end, ok, quindi finisce il suo turno così. Sì, esatto. Quindi il suo turno, esatto. No, hanno solo un più 3 di salvezza sulla Wisdom. Allora cos'è questo metagaming? Dei dadi di merda a catta. bisogna fare qualcosa. Sì, sto tirando altissimo ultimamente. Però si scaricheranno prima o poi. Bene, e Garrosh. Come funziona liberarmi? Una prova di forza? Allora, innanzitutto tu inizi il tuo turno dentro i tentacoli neri di Edward. Ma io ignoro il terreno difficile, no, questa cosa non è No, devi fare... Bene, però devi fare un tiro salvezza sulla destrezza, che tu dovresti avere vantaggio. Una base. Esatto, ho vantaggio se la cosa da cui devo salvarmi la vedo, quindi direi di sì. Spam, dillo tu, Vez. 5. No, è un 20 naturale. 20, 20, 20. Ma non è grappled. Ma anche se grappled, cioè, il gattesimo dice fai un tiro al massimo potevo dirgli hai svantaggio perché sei grappled, però non c'è. Ah no, aspetta, forse grappled lo dice. Sti cazzi. Vabbè, la CD posso saperla. La CD. Puoi dirmi no, se no non lo posso sapere. Vabbè, non è che cambia chissà che cosa. Perché con l'altro avrei fatto 14. La CD è 15. Vabbè, però hai tirato due dadi. Se avevi svantaggio ne dovevi tirare solo uno. Grapple, fa vedere, ti dà svantaggio. No. Allora, è solo che la velocità ridiventa zero. Sì, però non dà svantaggio alle prove Hai tiri salvezza sulla destrezza. Ma non è strano, è giusto. Andiamo avanti. Boh, no, mi immaginerei che se due persone sono a terra. Sì, sono d'accordo. Due aggrovigliate così riesco anche a evitare i tentacoli. Sono figo, sì. Sono d'accordo, però va bene così. Quindi lo passo, direi. Il Gun Peasant Cannon. Cosa? Il cannone dei contadini che si passano davanti. Bellissimo. Va bene, passi e quindi... Voglio provare a liberarmi, ovviamente. Ma ti conviene ancora la tizia per cercare... Ma posso farlo da grabolato? Svantaggio, però. No, semplicemente... È solo velocità zero. Ah, vabbè, allora sti cazzi. Ah sì, meno la tipa. Però stavolta faccio un attacco cauto. Che barbaro pusillanime. Dai, che comincia a avere... Quanti punti ferita ho? 101. Dai, allora sti cazzi, attacco in cauto. Pensavo di essere già messo peggio. Ma sono 3 adesso. E vabbè, 23, quindi col primo colpisco. No, per ora sono ancora 2, dal prossimo. Più 7, sono 12 danni col primo. Sì. E col secondo, bam, 25, quindi colpisco e sono 11 danni. Mm-hmm. Sempre magici. Yes. È abbastanza provato. Dai. Devo fare concentrazione. La passa. Costituzione, tu gli hai fatto 13 e... No, sì, comunque meno di 20 a colpo. No, 12 e 11. No, 10 e 10. Quindi sì, lo passo. Sì. Vardistran. Ah, poi con la destrezza prima avevo il più di Vardistran. No, sono lontano. No, sei troppo lontano. Ti ho detto che dovevi avvicinarti. Allora, io provo a avvicinarmi, ma non vorrei passare nei tentacoli di Edward. C'è uno dei lati da cui riesco a passare? L'Atanas l'ha fatto facendo un salto sovrumano per evitarli. Vuoi provare anche tu? Se vado dentro, cosa mi succede? Che vengo aggravigliato, vero? No, è che il tuo... Devi fare la tiro salvezza sulla destrezza e se vieni colpito dai tentacoli... È un'azione sto Athletics, ecco, però comunque, non è un movimento. Comunque è terreno accidentato. Sì, è un'azione. Comunque è terreno accidentato. Vale, no? Non hai un giavellotto da tirare la tizia? No, qualcosa. Ma io gli rifaccio il medaglione, secondo me. No, non sprecare il medaglione. Vabbè, tanto rega, ma con Strad non fa niente sti robini da uno. E ci saranno 10.000 zombie, lorda. E lei è quasi morta, quindi in realtà... È quasi morta questa? Ha detto che è provata, quindi secondo me un altro turno... Ma la cosa di luce la posso fare solo una volta, quindi alla fine. Perché è da 5. Quindi sì. Agli altri gli dovremo fare ste robe da 1. Ma hai 10 cariche tu adesso? Eh sì, no, ne ho 9 ora. Vabbè, intanto era full. Sì. No, allora fallo. Cioè basta che ne teniamo 6, tipo. 6, 7 le dobbiamo tenere, per avere una da 5 e una o due da paralizzarli. Fare 9 cariche, fallo pure. Dai, beh, come vuoi. Forse non avete capito. Tentacoli oscuri. Scusate. Se provi con... no, prendere questo. Guarda, che ci... questo. Ci bannano. Ci bannano da anche da YouTube. Che è? Ecco, è fondamentale. Non lo voglio usare, raga. Le due progenie si sono paralizzate. Visto che funziona, se lo tieni, se lo tieni qui, ci paralizza anche la lei. Tipa non ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta invece. La tipa ha superato. Vabbè, però, intanto due sono ferme. Ci concentriamo su di lei e la uccidiamo. È un'altra cosa. Ti muove? Se vuoi far qualcosa. Cioè, l'unica cosa che potrei fare. Ma se lui entra ed esce adesso, prende i danni, certo. Perché appena entra, okay, fa il tiro salvezza. Okay, sta a lei. Per il momento rimango. Perché io non l'ho fatto appena sono apparsi, io l'ho fatto nel mio turno. Sì, perché c'eri già dentro. E no, quando non era già. Turno se ci inizi dentro o quando una creatura è. Ok, ok. Se no prova a saltarlo. Adesso vediamo. Male che vada, non penso che possa fare. No, ora c'è un modo in cui io posso farlo, che è Misty Step. Però non volevo sprecare. Prova a saltare, o massimo in un turno, ma quanti danni faranno sti cose? Cioè, non ho 100.000 danni. Ho capito quanti danni vuoi che facciano. Faranno 5 danni? Sì, dai, farà pochissimo. E poi comunque al turno rimangono, dopo... rimango tipo... Yes. A proposito di Misty Step, riconosci proprio l'incantamento che conosci anche tu. E Ludmilla, in una nuvoletta di fumo, apparente, svanisce da questo punto e ricompare dietro a Atanas. Che spreco! Non posso usare la mia reazione in nessun modo. No, perché è una sua azione bonus, con un incantesimo con un'azione bonus. E quindi non, di fatto non è che si allontana da te. Marco, si teletrasporta prepara, dietro. Prepara il gufo. Dopodiché si butta verso il fondo di questa alcova e sparisce. No. Ma tipo teletrasporto come è arrivata? Tipo teletrasporto come è arrivata. No. Quindi spariscono anche sti rovi, però. No. Perché? Non lo so. Perché... No. E... No. Come Giulio succede? Dai... Cioè, se ti allontana di un tot spariranno, no? È un problema se questa è... Sì, può tenere la concentrazione. Ok, e questo era Ludmilla. Sfortuna. Che miseria, era meglio se facevo il Misty Step e andavo a nazionale. Quanto è lontano l'angolo da me? L'angolo da te? Non ci abbiamo pensato. 35 piedi. Ma non credevo fosse così al limite. Ok, culo. Siamo ste... Faccio Misty Step e la seguo. Occio. Cacciatore, è vero. Plip. Quindi... Però sì, io ho ancora la mia azione, perché è un'azione bonus. Sì, sì. Tu hai ancora la tua azione, e allora anche che... E anche il movimento. Palla di fuoco. Minchia, dipende cosa c'è dalla tua parte. Entra tipo a caso, boom, palla di fuoco, tipo la sala degli invitati. Boom. Ci starebbe... ci starebbe di brutto. No, purtroppo. Oh, cazzo. Non spunta nella sala degli invitati, ma nella cripta ad ovest, nell'alcova ad ovest della cripta 32. La cripta 32 è quella. Quindi cambia completamente il concetto. Cioè, ora ci giriamo. Senza epitaffio. Esatto. Cosa che avremmo potuto imparare. Cioè, vedi che dovevamo esplorarle meglio. 32. Qua, questa qua. Vedi che dovevamo esplorarle meglio. Questa qua dove? Qui è vicinissimo. Sì. Quindi tu spunti da qua. E non la vedo. E non la vedi. Cosa fai? Ma la porta è chiusa. La porta è aperta. Infine la vedrai, non può aver fatto nada. Cioè, anche lei ha fatto Misty Step. Beh, si è girato l'angolo, però. Ma lo può fare anche Marco. Esatto, ha anche meno movimento. Esco. Esci. Allora, aspetta, dove cazzo siete qua? Quindi lei andrebbe di là. No, zoom dentro, zoom dentro. Ok. Che scemo, l'ho cancellato. Vieni qui tu. Allora, quanto è qui? Vediamo. Sono... 10. Quanto vedi tu nell'oscurità? Avrà io nell'oscurità 0. Avrà la torcia. Hai la luce, non hai una delle spade, no? Marco sicuro che la torcia non ha bisogno di mani per combattere. Solito Marco scastava luce su qualcosa. Ha cacciato luce sul bastone. Avrà cacciato luce sul bastone. La vedi giù per il corridoio che sta scappando. Vai, gli uccidi. Ma la vedo in penombra o la vedo... Palla di fuoco! È presente tipo nei videogiochi che c'è il bersaglio che si chiude della mira. Dai, spazzala via. Tirerò altri due Eldritch Blast allora. Due Eldritch che basta? La seguo più che posso con il mio movimento, che quindi sarà... Se non muore può continuare a seguire. Come sì, ci sta. Se è scappata via vuol dire che ha le corde. Poi usa il tuo famiglio per attaccarla. Beh, sì, il famiglio... No, è vero. Può farlo. Ma dovrei tirare iniziativa separata per il famiglio. Il famiglio è rimasto nella vostra stanza. Perché? Perché non ha fatto in tempo a seguirlo. È un killer nato. Catta che nerfa Marco. È con lui. Ho fatto 17-19 per colpire con Eldritch Blast. Colpita. 16-17 danni. Minchia. Perché ha la maledizione ancora addosso. Sì. Quindi? Totale? 33. Okay. 33. Quindi? Cazzo di dover fare la palla di muore. Visto? Si sbriciola in una nuvola di polvere. Era bello se la finiva. Ah, è la nuvoletta? No, non è la nuvoletta. Questa è... La polvere è proprio cenere. I baffi. Io mi ho fatto fuori le due... Pensavo a Leslie Nielsen in Dracula morte con tetto, però vanno bene anche i vampiri di baffi. Vedi che nel cumuletto di cenere che lascia il suo cadavere rimangono tipo le pietre preziose e i gioielli che portava. E Salla è già lì. Salla fa mano magica per prenderle. A farsi vedi però che questi gioielli improvvisamente scompaiono. Sì. Qualcosa di magico. I suoi poteri. Lei aveva Ludmilla una tiara d'oro e 10 braccialetti d'oro. 10, ammazza. Così. Dai che l'oro in Barovia ci serve tantissimo. Sì, esatto, fondiamolo per fare armi. Esatto. Ok. Portali a sangue. Vediamo se si sparalizza la seconda progenie. Non si sparalizza. Athanas. Sono due ora. È brutta questa cosa che a Barovia l'oro non serve. Cioè, noi abbiamo accumulato una quantità di ricchezza. Io ancora mi dico. Infatti, la sessione dopo l'ultima sessione sarà noi che compriamo roba e investiamo. Comunque, attacco. Giro per il mondo. Beh, ci sarebbe. Hai vantaggio. Sono paralizzati. E tutti i colpi sono critici? Aspetta, fammi controllare. Se uno... mi ha in lotta ed è paralizzato, non mi posso liberare perché è duro lì fermo e non posso muovere. Beh, ora direi che i tentacoli del caro Edward non ci sono più. Non l'hai detto. Passa la concentrazione anche da me. I tentacoli spariscono. Anzi, non era perché? Allora, la creatura paralizzata è incapacitata, non può muovere o parlare, fallisce i tiri salvezza su forza e destrezza, gli attacchi contro di lei hanno vantaggio e qualsiasi attacco che la colpisce è un critico se l'attaccante è entro 5 piedi dalla creatura. E poi non avrà destrezza alla classe armatura in teoria, no? No, quella la tiene, ti può schivare ancora benissimo. Perché il tiro minimo che ho fatto è un 8 più 11, 19. Quindi... L'hai colpito. Esatto. 12.000 in forza. Sì. Ah, quindi devo tirare due danni. Qua. Questa in teoria moriranno in fretta. 9. 14, 23, 24, 25 danni magici. Mm-hmm. Direi che si sono fatti spaventare. Beh, comunque alla fine è servito. Sì, ho subito diversi attacchi in meno perché erano paralizzati. Anche solo uno. Sì, ma quando ti hanno attaccato ti hanno fatto 6 danni. Normali. Ma perché lei non mi ha mai attaccato direttamente? Quanti normali? 16. Lei non mi ha mai attaccato direttamente. Io a sto punto non sto a fare action surge. Cioè vedo no, no, lo finiamo normalmente e basta. Hai visto il tuo amico sfortuna sparire dentro l'alcova. Mi spiace per lui. Siamo abituati esatto. A amico, ma l'appena conoscente. Esatto. Anche il secondo fallisce. Esplosione dei Eldritch Blast che colpiva e tipo... Misfortune. Perché? Non so, è il nome... Cioè, si chiamerà in un altro modo, però è il suo nome d'arte. Garrosh. E sono libero, quindi, perché è morto. Sei libero. Mi teneva. E faccio un ultimo attacco incauto. Cioè, insomma, hai già vantaggio. Ah, è vero. Hai ragione. Vabbè, no, non faccio attacco incauto, allora. Faccio lo stesso attacco incauto. Lo stesso attacco allora... Quindi sono 6 più 7, 13 col Chiedo. Primo attacco. È morto? No. 22 con l'altro attacco e sono 10 danni. Ricordi che sono critici questi tiri. Ah, minchia. Grazie, Vez. Allora aspetta, quello che ti ho detto Devi aggiungere. Fai... vabbè. Aggiungi. Aggiungo, perché io ho anche critico brutale. Aggiungi al primo 6 e al secondo 7. Qui sono più 13. Altri 7. È morto? Ok, non ancora. Hai messo palle, un po' male. Lo devo uccidere io, che così ho i 2 di 6 temporanei, rega. Bardistran. Non finitelo, vi prego. Lasciatelo a uno. Niente, a sto punto avanzo anch'io. Curalo, e faccio, così lo finisco io. E faccio i miei danni. Beh, c'è l'altra anche, no? Ce ne sono due. Scusate, io sono scomparso, nessuno mi segue. Ah, non l'ha uccisa Giulio? Ho capito che era morta quella che aveva attaccato Giulio. Sì, io in realtà potrei averlo più o meno intuito. Da dove ero, o no? No, forse no. Magari Race e Patka che sono lì a... Ma... Avete sentito dei rumori alle vostre spalle. Eldritch Blast che componenti ha? Credo che tu debba pronunciare Eldritch Blast, penso che sia quella la componente, no? Vabbè dai, io faccio... Non vuoi che... ma mi sa che devo... Verbale e somatico. Allora, noi abbiamo sentito Eldritch Blast, abbiamo sentito i colpi che arrivavano e poi la musichetta di... di Vittorio. Quindi. Vabbè, abbiamo sentito lui che lanciava il Eldritch Blast. Posso prendere l'altra? Sì. Ah, scusate, perché ce ne sono due? Non è morta quella che ha attaccato Atanas? Era la stessa che hai attaccato tu. Ah, quindi non era morta? Sono un botto di danni da fargli. Avevo capito che era morta. Di vita, Avevo capito. Bardistran, arrivi lì. Ti provo a lasciartela, Scio. Non so se è una buona idea in realtà. Però... cominciamo a fare un po' di danni anche questa alta. Se si riesce. Ah, un vantaggio. Ed è critico. Sì, 30 a colpire. E quando è critico cosa fa? Faccio? Raddoppi tutti i dadi. Un botto che non faccio un critico, scusate. Non mi ricordo più. Sei fatto 20 all'iniziativa. Tu sei uno che fa 20 così. Hai fatto 20 all'iniziativa, ma non era un critico. Hai fatto critico all'iniziativa. Allora, si ritirano tutti gli uno. Meno male perché erano 3 su 4. Vedi che erano su 3, sono già meglio, quindi 9, più 4, 13, più 7, diventano 20. Sono 20 danni da colpire. Facciamo. All'altra, Quest'altra è un 24 a colpire. Colpito. Si ritirano i 2. È andata peggio. Vabbè, si può avere tutto. Un peccato. 11 più 3, 14, 21. Peccato. Beh, 41 danni gli hai fatto, mica brutto. Me coglioni. Speriamo rimangano paralizzati, ma non è detto. Allora, lei è morta, sfortuna. Ah, torno più o meno invisibile e cerco di... Più o meno, che senso? Ma quel portale teletrasporto... Uso Silent Image per rendermi poco visibile, possibilmente. Ok. E mi avvicino da dove sento i rumori, per orientarmi un po'. Il portale è sparito. Noi che siamo lì lo vediamo, in teoria. Ma noi non lo sappiamo. Abbiamo visto... Cioè, dove siamo sì, noi, tu... L'hai visto che si è attivato, non hai visto, e poi dopo che gli utilizzatori sono passati, non l'hai, no, poi si è spento, cioè non sai se è attivo o meno. Ah, cioè quando è passato sfortuna non l'ho visto? Da lì dove siamo non l'ho visto? Sì, no. In realtà se Marco lo usasse al contrario, sì, l'hai visto, potrebbe colpire queste, forse potrebbe... L'hai visto passare, sì, ma adesso non è che c'è, non è che c'è la lucina accesa, si accende quando uno passa. Mi metto lì vicino a Race, se vedi. Ok, prova a, appunto a... Ah no, tanto tu vedi la luce che arriva da lì. Ok, fino a che punto arrivi? Ok. In modalità sfortuna, si ferma lì. In effetti arrivi fino... Devi usare il portale al contrario, era figo. Beh, sì. Io mica lo so che funzionano in tutte le direzioni. Esatto. Direi che è il momento di sfruttarlo. Magari loro sono entrate da un'altra parte ancora e se torni dietro da lì finisci da un'altra... Oh, figo! Tipo cartone animato. Ah, come nei Pokémon! Sì, esatto. Ok, sfortuna arrivi fino a lì, quindi. Lancia una palla di fuoco dentro il portale al contrario e vediamo cosa succede. Vediamo se si sparalizza. Si sparalizza. E l'altra? L'altra sta dopo Atanas. Atanas, cosa fai? Tanto quella che davanti a me ha sparalizzato o la paralizzata? Mazia la... Non so. Colpisci la paralizzata che hai la possibilità di fare critico automatico. Dipende, perché l'altra posso attaccare chi voglio. Sì. Qual è quella paralizzata? Quella che volevi tu. Quella che volevi tu. No, scusa, quella è sparalizzata. Quella paralizzata allora è quella che... paralizzata. Quella che ha attaccato Vardestron. Ah, peccato, perché si può fare critico a senso. Sì. Forse sì. Per fare il doppio dei danni. Con 15 colpisco. Sì. Ok, allora non sto a ritirare. Sono 10, 14. 7, 20. 26 danni magici. 26? Sì. E 18 normali. 18 normali. Tieniti al sicuro, amico. Perché ti dice lì in alto? Ma guardiamo un po' la diretta e Giulio si sente molto piano. Sì, come lo senti a lui, raga. Sì. Ma io non lo sento così piano quando parla qua. Ah, è vero, io lo sento bene qua. Quella che hai attaccato rimane paralizzata. Garrosh. Cerco di finire quella sparalizzata. Mm-hmm. Faccio attacco incauto, stavolta. Bravo. Meno male, perché c'era un 1. 17, quindi colpisco. E sono 11 danni, sempre magici. Muore. Sì, tiro i 2 di 6 temporanei. Sì, che bello. Bam, 10. Segna 10 danni. E quanto dura? Fino al prossimo riposo. Oh, ottimo. Cioè fino a fine campagna probabilmente. ottimo, hai ancora un attacco? Sì, faccio sull'altro, sempre in causa ovviamente. Ci anche questa di è ancora paralizzata? Sì, è ancora paralizzata. Quindi critico, Va bene, in critico, quindi sono. Sancini, anche questa sono altri. No, purtroppo no. Scelgo il maggiore, cioè li tiro ogni volta, ma scelgo il più alto, lo tengo solo uno. Non si accumulano. E sono 19. Per colpire? No, colpire o colpito, scusa. Questo è i danni da critico. 19. È morta? No, aspettando. Sì. La tua lancia trafigge anche lei. Vabbè, assorbendo. Se magari faccio di più, e magari no. 9. Niente. Ma quindi, cioè, non so, sfortuna, questi qua non fa niente. Okay. Te, potrebbe... Seguiamolo! Ok, no, buono, io adesso attacco Sceo. Hai vantaggio. Beh, io a sto punto vado nello spazio. Nello spazio? Che ho visto, dove ho visto andare sfortuna. Ok, mentre Vardistrand va qua, gli altri cosa fanno? Non so, vogliamo dare un'occhiata alla bara, che è cosa che abbiamo ignorato. No. Fortuna! Sai, io avevo detto che faccio quello che fa Vardiser. Ma che cazzo vuol dire? Scusa, cosa vuol dire? Cioè, quindi segui lui e basta. Esatto. Io volevo dare un'occhiata alla bara. Vabbè, sei lì, la puoi fare, anche okay, se sei il tuo padrone. No, esatto. Lo so, è che fa ridere che lui va, io faccio quello che fa male. Vabbè, Atanas e Garrosh si infilano nella cosa. Cose assurde, vediamo. No, Atanas e Vardis. Comincio ad andare a zappare. Ah, si muovi proprio insieme, cioè ormai. Per comodità. E spuntano. Vado a zoppo galletto, comincio a dire sciogli lingua, non so. E spuntano in questa cripta, nella 32. Vedono che il portone è aperto. E sfortuna sente dei rumori provenire dalle sue spalle. Lui dice Eldritch Blast. Proviamo a cercarlo. Sfortuna, dove io sei? Sono nascosto. Sfortuna, è vero. Dove sei? Quante cazzo di volte abbiamo fatto sta cazzo? È vero, è nascosto. Fate perception. Anzi, no, scusa, sì, è vero. Fate perception e fortuna fa stealth. Vabbè, sfortuna, dove sei? Non interessa mettermi a cercare sfortuna. Sfortuna, se c'è bene, tra l'altro. Come si fa? Sfortuna, sfortuna, sfortuna, sfortuna, sfortuna, sfortuna, sfortuna. E quindi anche Atanas, perché fa quello che fai tu. Esatto, Giulio, fai quello che faccio io. 17 di stealth. Va bene, fate perception. Allora, sto dai che tirare. Quant'è? Io te lo tiro. Più 2 ce l'hai almeno. Che cazzo è, frega, ho fatto 8. Sfortuna, cioè, guardate le rocce, di solito si trasforma in una roccia. Sfortuna, dove sei? Atanas, perception, quanto hai fatto? Avete fatto 8. 8? Va bene, fatto come me. Cosa devo fare? Hai ragione, fa quello che fa lui, quindi anche gli stessi risultati. Va bene, vi mettete a cercare sfortuna in quella zona. Garrosh, sono rimasto da solo con la bara. Vabbè, niente, se non risponde, vabbè, io do un'occhiata alla bara, guardo, la osservo, guardo per l'apri. Però scusami, notiamo il cumuletto di gioielli che sono, notate, non ci sono più. Un cumuletto di cenere e i gioielli. Ah, non mi hai detto che li raccoglievi? No, no, pensavo che si prendesse spalla. Non l'ha detto, io non li prendo. Vedete i gioielli lì per terra. Quando li vediamo, direi che siamo più tranquilli. Capiamo che sfortuna sta facendo la sua solita gag. Ok, Garrosh, tu apri la bara. Sì, è senza controllo ormai. Sì, do un'occhiata dentro. Fucking barbarian. Beh, metti che c'è strada, uccidiamo. Ma sì, dai, ci sta. Sei un cazzo di barbaro fare queste cose. Sì, sì. Cioè, guardo proprio tipo così. Se non c'è niente, chiudo. Se mi fa adesso che sei un barbaro. Cioè. La bara. Do un'occhiata dentro, magari. Io... La bara è vuota. Certo, cioè, non c'è proprio niente. È piena di progetti. Allora, ditemi, Vardistrand e Atanas, in che direzione andate a cercarlo, sfortuna? No, quando abbiamo visto il coso così, abbiamo capito che sarà in giro. Quindi torniamo verso gli altri. Dimmi quando tocca a me. Athanas, cosa hai detto? Sì, è quello che ha detto Varley. Sì, è bellissimo, questo è fatto. Sono va bene. Puntato. Che cazzo è successo? Sì, sì, sì. Allora. Certo, sì, sì. Che ok, che quindi Vardistran distribuire del cibo ai poveri bisogno. Ma sì, sì, sì, va benissimo, anch'io. Ho detto, comincio a fare cose assurde, vediamo. Comincio a pregare le divinità e parlare del bene. Ma sì, certo, perché no? Ok, Vardistran, tu cominci a ritornare verso gli altri. Nel momento in cui però il tuo piede colpisce tocca... sfortuna. No, gli passi di fianco in realtà senza vederlo. Nel momento in cui il tuo piede colpisce questo punto, tu vedi un flash di luce e poi l'oscurità. Gli altri, anch'essi, vedono un flash di luce nel punto dove stava Vardistran. Poi Vardistran scompare e al suo posto c'è un white. Non c'eravamo già stati lì? Sì. Cosa al posto di Vardistran? C'è un white. Sarà un fantasma. Sì, c'è la colpa, merito mio. No, lo sapete. Aspetta, c'è sto flash e scompare Vardistran a fare un white. Un white, sì. E io non vedo più niente. E tu vedi l'oscurità completa. Ma posso muovermi? Sei sdraiato, no. Puoi parlare e hai un po' di impedimenti nei movimenti perché c'è una gag di sfortuna. Dove cazzo sta? Potrebbe essere. Dai, su, muoviti. Sei così, è molto allo sbando. Quello che si nasconde ti trasforma. Io se sono che guardo la barra, così tutto un po' in libertà. Ecco qua. Athanas, quello che dice lui. Sì. No, io adesso attacco. Esatto, sei immerso nell'assoluta oscurità e ti trovi sdraiato in uno spazio molto confinato e soffocato dalla polvere che respiri. Sulla barra. È molto probabile. La barra di Strahd ce l'ho ancora aperta. No, non ce l'hai ancora aperta. Quindi la riapri, si sente. Vabbè, bellissimo. Seguiamo l'iniziativa. Sì, possiamo tenere quella di prima. Sì, sì, dai. Quindi... provo a tirare una spadata. Ce la faccio? Mm-hmm. E aprire questa barra. Mm-hmm. No, la presa magari è... basta, cioè, magari è per... boh. Fai una prova. Faccio di una forza. Con la spada magari. Fai leva, sì. Proviamo un athletics. Beh, 9. Adesso che hai detto. Non ha svantaggio perché è là dentro la vara. Pure? No. Perché? Comunque tanto... 16. Apri la bara. Vedi, hai della luce con te. Ah, chi lo sa chi ha la luce, però presumibilmente quelli che non potevano vedere la luce ce l'hanno. Comunque sì, posso accendere una torcia. Ok, allora nel frattempo che accendi la torcia vado dagli altri che si trovano contro un white. Ok, sfortuna, cosa fai? Ma io sono nascosto. Cazzo, sì. Non è la sua, allora. Ho il mio, come si chiama, silent image. Sì. Niente, mi piace star lì. Mi allontano più che posso. Allontanarti rivela la tua posizione. Però puoi farlo. Tieni presente questa cosa. Non c'è tipo delay action. Prepari l'azione fino a che non succede qualcosa. Funziona questa cosa, prima siamo passati, non è successo niente. Non lo so. Dice per questo che io ma io ci sono proprio così attaccato. Forse è vero di fianco a te. ha sbloccato qualcosa. O forse semplicemente l'aveva aperto il cancello. Non sono finito io. Vabbè, allora preparo un cutting words. No, no, niente, non faccio niente. Ok. Va bene, stai nascosto. Sarà bellissimo che Giulio farà la stessa cosa che faccio io. Mi voglio svegliare dentro una bara. Sì, apro anch'io la bara. Attacco. Tu hai la spada, giusto? Sì. Sì, ecco, lontano, non sto... Ah no, forse vedo io. Sei lontano. Però... È che sono sopra le scalinate. Ah, giusto. Quindi sono in alto. Senti, però, che c'è un combattimento. Sentirò però che stanno combattendo. Senti il rumore di un combattimento, sì. Che nella mia testa è ancora Ludmilla, potenzialmente. 19, 21, 13. 13 manca. Ok, hai... Sono 22. Aspetta, 14. 14 colpisce. Ok. Perché c'è il più uno della spada che mi scordo sempre. Allora, sono 22 magici e... Vabbè, 8 normali, ma non so se può beccare. Quelli normali a resistenza. Quindi infliggo la metà dei danni. Ma le spade luminosi che ce le ho? Io e Salla. Esatto. Quindi con magici intendi radianti? No, sono magici. No, magici. Spade magica. Ok. Tocca a lui. Lui ha... Due attacchi, una con la sua spada lunga ed uno con il suo prosciugavita. Attacco con la spada, fa 16, ti colpisce Atanas? No. Attacco con Life Drain, ancora meno, non ti colpisce. Garrosh. Ora sento. Cosa sento? Cosa? Del. Intanto la bara mi confermi non c'era niente dentro, neanche un oggetto, una cosa, niente. Niente. Ok. Quindi non mi interessa più la bara e dimmi se cosa capisco da cosa succede fuori. Sì, senti delle espressioni di sorpresa e delle. Fendenti, esatto, e rumore di fendenti che echeggia nelle cripte. Vabbè, vado in quella direzione. Muovo di 35 io, quindi. Vedi, ok. Non faccio i teletrasporti, ovviamente, passo diritto. Allora, quindi, in soli 15 piedi arrivi in cima alla scala. Beh, quindi dovrei arrivare direttamente alla... Vedi altri 15 piedi di fronte a te. Questo White che sta attaccando Atanas. Se posso lo carico. L'ira, okay. L'ho persa però il turno precedente, vero? Sì, hai perso un turno con la bara. Esatto, quindi hai perso l'ira. Un punto con uno spillo un dito. Se non me l'hai detto, no. Vale nel caso. È un discorso complicato, lo facciamo un'altra volta. Okay. Nel momento in cui tu... Vabbè, però per tenere lì... Mi tiro una martellata piede. Su un piede. Nel momento in cui il tuo piede tocca questo punto, vedete un flash di luce, Garrosh compare e al suo posto c'è un White. Dove hai toccato? Stesso corridoio più in basso. Intorno a te c'è la completa oscurità e sei sdraiato. Vabbè, a questo punto lo faccio anch'io, già non è l'unico coglione. aspettatemi. Niente, se ho ancora in teoria sì la mia azione, se sono nella stessa situazione anch'io cerco di aprire il contenitore dove sono. Prova di forza. Sì. Athletics. 21. Ok. Irrompi dalla bara in cui eri. Mi immagino Atanas che da solo. Esatto, Atanas è lì che si sta cercando di accendere una torcia nell'oscurità più totale. Di fianco a lui sente una bara che esplode. Esatto. Un barbaro incazzato. E poco più in là c'è una race pat. Che fanno esatto. Allora, per fortuna Divardistran nel frattempo ha acceso la torcia, mm-hmm. e quindi vede la, oltre alla scena del barbaro che esce da una delle bare di vicino, la, si rende conto di dove sta. Praticamente, se no in questa cripta più grande di quelle che avete visto, e che sta in fondo a un praticamente ad un livello inferiore, in fondo a un camino, un pertugio verticale. Al fondo di questo pertugio, appunto, c'è questa volta alta 10 piedi. E questa una stanza che è una forma strana, no? Irregolare, puzza di carne marcia e al suo interno... Quello potrebbe essere Garro. E va bene. Sì, al suo interno ci sono 15 bare di pietra sparse in questo... all'interno di questa cappella praticamente. Tutte le teste sono tutte orientate a nord e il pavimento è ricoperto di ossa umane e spade arrugginite. Ma quindi è una stanza che non abbiamo mai visto, quindi non sappiamo dove siamo. Infatti, non sapete dove siete. Pensando al modellino non ci viene in mente. Non ti viene in mente. Però vedi che sopra questa le pareti di questa di questa struttura sono molto umide e scivolose, però c'è questo camino. Oddio, che va verso l'alto. Siamo tornati di sotterra. No, no, altrimenti li avresti riconosciuti. Qui non ci eravate mai stati prima. A livello di udito si sente qualcosa? Non sentite nulla. Dove però siete? Umido saremo comunque. Beh, oddio, la Barovia direi che è umida abbastanza ovunque, però vediamo. Sì, in teoria è un sotterraneo. E poi c'è questa sorta di camino che va su, ma su tanto, quindi. Adesso con la luce che ha fatto Vardistran non vedi la fine, però adesso tocca a Vardistran. Quindi ti faccio vedere la fine. quindi, niente, mi accorgo però che c'è Garrosh con me. Garrosh! Come sei arrivato qui? Boh, ho visto tutto buio a un certo punto. Cavolo, anch'io. Ho visto Giulio e Atanas che combatteva con uno spirito e poi boh, mi sono ritrovato qui. Uno spirito? In che senso? Era uno di quei cosi che abbiamo già visto, dai, quelli... E da dove è uscito? Non lo so, io sono arrivato, c'era già. Esatto. Boh, quando sono arrivato era già così, non è colpa mia. Molto male. Va bene, quindi in alto vediamo che c'è un'uscita. E poi non l'ho visto Sfortuna. Sfortuna dov'è? Qui con noi? Sai dov'è? No, Sfortuna non l'ho più visto, ma credo fosse in qualche modo sopravvissuto. Ho visto i resti della progenie, della moglie di strada. Ah, bene. Questo è un ottimo segnale, ma purtroppo poi è successo qualcosa di molto. Sì, dove siamo? Ora cerchiamo però di avvicinarci lì sopra, magari scopriremo qualcosa in più. Okay. Possiamo fare un investigation per capire dove possiamo essere? Pensando alla pianta, diciamo, del castello, alla polimetrie. Sai che siete sottoterra, ma non hai abbastanza elementi per capirlo. Ci avviciniamo verso su. Ma c'è okay. Sarà una porta. Praticamente... Questa, vedete che questo pertugio, questo canale verticale, va per 40 piedi verso l'alto. Ah, ma è proprio tipo in verticale? Sì. È una scaletta? No, però le pareti hanno delle pietre che sporgono ad intervalli abbastanza regolari, che quindi offrono appoggio per i piedi e per le mani. Siamo in un pozzo. Praticamente. Sì, praticamente è un pozzo senza l'acqua, è un pozzo di ossa e bare di pietra. Però è strano che ci siano bare e non c'è modo di arrivare qui normalmente. Ma tipo, non avevamo già visto prima una cosa che andava giù in un pozzo? Ah, l'avevate vista? Sì, l'ho vista. Era tipo il 14, qualcosa del genere. Sì, siete nel 14. Vero. L'avevate aperta, sì, perché ve l'ho... Avevamo visto che c'era un pozzo di ossa e ho detto no. Siete proprio lì in fondo. Vabbè, allora easy, siamo un po'... Caliamo. Le pietre sono scivolose, però si può provare comunque a salire. Non è un problema per me, lo sai. Però non sapeva anche che c'erano delle tombe in fondo. E soprattutto che ci si viene teletrasportati. Sì, esatto. Magicamente. E vabbè, cominciamo la scalata, direi. Prova di forza. Athletics. Stiamo seguendo... l'iniziativa, quindi è il suo turno, io ho già fatto. Esatto, è il turno di Vardy. Arrivi in cima. Garrosh! Sfortuna. Io non sono ingaggiato, giusto? No, sei nascosto. Ma non sono neanche agitata o sono agitata? Allora, se io faccio Eldritch Blast ho svantaggio, cioè, perché sono per tutte le quello, quello sì, perché essendo un attacco a distanza hai svantaggio se c'è un nemico entro 5 piedi, indipendentemente da dal fatto che lui ti... Però sì, essendo tu nascosto, se ti muovi lontano da lui, lui non fa attacco d'opportunità perché non ti vedeva dove eri prima. Perché è così schiacciato. Il muto. Mi allontano qua a 25 piedi, 26. Allora, aspetta. Che brava devo... difesa. Il cieco. Qui. Il sordo. Oh. Il muto. Gli sposto contro la maledizione che era prima della tizia che ho ucciso e gli faccio due Eldritch Blast. Sì. 25-20 a colpire. Colpito. Ok. 29 danni. Svanisce. Salve Atanas. Sono tornato. Va tutto bene. Ok. Beh, però un momento davvero pensato che avessi fatto una gag. Sì, è vero, ci poteva stare. Ci poteva stare. Cioè, sarebbe stato veramente complicato da organizzare. Beh, no, ma però... infatti la cosa che mi sembrava strano è che poi io fossi tipo in orizzontale, perché pensavo magari ha fatto tipo un'immagine. Cioè, che tu eri camuffato. Sì, da... la classica esatta immagine. Sì, poteva essere. Così io non vedevo niente. Questi intanto mi colpivano, mi ammazzavano. Intanto ha perso l'occasione di far uscire Strada alla bara. Non c'ero. Ah, è vero, non sei voluto entrare. Allora, il secondo... sarebbe stato figo. Il secondo White prova di nuovo a colpire Atanas. Non è che aveva fatto apparire in mezzo alla stanzona grande, all'ingresso, diciamo. Tipo un palloncino gigante di sì, era così. Ok, riesce finalmente a colpirti. Uso parole taglienti. Ok, uso parole taglienti, cattivo, eh. Uso parole contundenti. E gli abbasso il coso. 6. Ma è tipo una rap battle. Io uso esatto. Ok. Quindi sfortuna, ti manca. Atanas, tocca a te. Attacco. Comincio a calpestare mattonelle a caso. Mentre che anche lui voleva provarci. Merda. Lo colpisco con due attacchi. Immagino. Mm-hmm. Quindi faccio 12, 13 danni magici. Anche solo due settimane, però. E 11 normali. No, catta che conta giù. Cosa ho fatto? Ho sbagliato. Garrosh. E niente, scalo anch'io come prova di athletics. Ma sei sicuro che devo farla io? E dai, che c'hai da athletics? Avrai più 12. Cammino sui muri io. Con vantaggio almeno, dai. È che sono scivolosi. Dai, tira. Sì. Oh, 11. Arrivi in cima. Oh. Che risata malvagia, però. Bene. E volendo il mio movimento. Volendo. Hai il tuo movimento. Sì, che sento rumori di lotta. No, sono troppo lontani. Però capisci. Capisco dove sono e cerco di tornare in quella direzione. Dai. Sì. Calpestando cose a caso così. Adesso quando uno di voi viene qua lo spingo di nuovo in quella direzione. Esatto. Vardistro. Vengo giù, dritto di 35 piedi. Comunque, se riesco a seconda dei nemici uccisi, questo sarebbe un ottimo. Sì, è vero. Seguo Garrosh letteralmente, nel senso che cerco di andare dove cammina lui. Ok. Faccio quello che fa Garrosh. Esatto. Sfortuna. Poi dietro arriva anche giù. Beh, visto che il tizio è morto, sposto la maledizione sull'altro e faccio anche due Eldritch Blast. Sì. È tipo il turno in loop di Sfortuna. Sposto la maledizione e faccio due Eldritch Blast. Vabbè, 11 e 24. Da colpire? Sì. 24 colpisce. 6 danni. Oh. Oh, un doppio 1 tirato, finalmente. Sì. Ok. Beh, significa che adesso ho tolto gli uni. E... gli uni e gli altri. Cosa vuol dire? Un po'... ah, perché quando tiri uno si tira via lo slot dell'uno e non può più apparire. Allora il fantasma fa due attacchi su Atanas, uno colpirebbe, non, sfortuna, niente. Non ha nulla in contrario. Allora la spada lunga del White colpisce Atanas per 8 danni taglienti. Atanas. Finisce. Un po' meglio di prima. Hai già al massimo giusto, sì. Era 200%. Strano. 14 lo manco, vero? No, lo colpisce. Ah, ok. Allora, che schifo. Tra l'altro 5, 6, 7, 14, 21 magici. Uh-huh. E 8 normali. Muore. E l'ultimo White che vedete è stato sconfitto. Aspetta, io sto girando per i corridoi, aspetta. Non l'abbiamo mai visto i guai. Io salto, il mattonella ci salta sopra, esatto. Pesantemente. Voi non avete capito che cosa sia successo effettivamente. No. A questo punto dobbiamo cercare di capire che fine hanno fatto. Ok, io mi volto verso Fortuna, io ho idee. Oh, proviamo a camminare dove hanno camminato loro. Ok, questa è l'unica cosa che non farei. Ma siamo arrivati... ah, cioè tu vuoi rifare... ah, genio, okay. Genio. Logicamente. Sì, siamo Paolo... sì, vai. Quindi noi adesso veniamo a combattere i white, voi andate giù, poi non riusciamo. Esatto. Tanto, bello, mi piace. Ok, io invece eviterei proprio di andare in quella direzione. Beh, quattro... il fatto è che da soli non so quante possibilità abbiamo di uccidere Strand. E non so che fine abbiano fatto. Magari cercaci, tipo. Magari hanno bisogno di aiuto. Gli altri con te. Magari hanno bisogno di aiuto, sono bloccati, esatto, in un combattimento per la loro vita. Siamo nascosti a 2 metri, esatto, magari Marco potrebbe dire tipo, ma se saranno costati i beige tutti. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, ci servono purtroppo vivi. Vabbè. Beh. Vabbè, ci li raggiungeremo prima o poi, no? Sì, se, nella loro, se non si muovono da dove stanno e non fanno cose stupide. Sentite dall'oscurità dei passi che si avvicinano in maniera frettolosa e molto pesante. Però non abbiamo troppo tempo, dobbiamo andare. Sta arrivando qualcun altro. Veramente tipo il gatto col topo adesso intorno alle torri. No, vabbè, ma ci vedranno, abbiamo, cioè, ci hanno illuminati, abbiamo la torcia. Da un punto di vista, da un certo punto di vista, le argomentazioni di sfortuna sono sensate, sono quasi... No, effettivamente ci sta che tipo dice adesso nascondiamoci un attimo, chi cazzo sta arrivando, non ha, non, no, non quello va benissimo, eh. Facciamo che ci raggruppiamo, beh, vediamo cosa fanno. No, però, vedete, certo, la luce che si avvicina. Vabbè, io comunque nel frattempo dico sfortuna, però aspetta, beh, un attimo. Urliamo anche, dove siete? Adesso sparerà. Vabbè, la palla, aspetta, ma noi urliamo anche, ragazzi, dove siete? Tipo si volta e vi dite, tranquillo, Atanas, ho tenuto una palla di fuoco per questa situazione. Esatto. No, va bene, io intanto mentre mi muovo urlo. Dove siete? Aiuto! Atanas, sfortuna, aiuto! Guardi, stravisego! Che cazzo di casino fate? Uso le mie illusioni per cercare di darci un po' di credibilità. Ma questa chi l'ha messa? Catta o Marco? Io no. Meno male. Ma no, perché guarda come si chiama. Strad Welcome. Red. Strad Welcome. Strad Welcome. Strad Welcome. Se l'aveva messa Catta mi preoccupavo un po'. Quindi non ho capito che cosa fa Marco. Suona. Uso Minor Illusion per fare della... dei rumori, musichetta tematica, compagni che gridano in modo da andare nel posto e scomparire anche noi e far apparire. Vabbè, quindi voi altri mentre vi avvicinate sentite questi rumori lugubri e poi vi ricongiungete con che Atanas successo? E sfortuna, che cosa è successo? Io a voi. E non lo so, noi siamo spariti, ci siamo ritrovati nelle tombe sotto una, ecco, delle tombe. E sono comparsi dei Wraith che abbiamo dovuto uccidere. Uno l'ho visto. Cosa stavate facendo quando siete spariti? Niente. Ci siamo ritrovati dentro una stregoneria. Forse quali sono esattamente le azioni che avete fatto quando siete spariti? Questo percorriamo. Facciamo che niente, in quel corridoio ci siamo ritrovati in queste tombe. E forse una stregoneria del genere o un abile conoscitore della magia come te, sfortuna, potrebbe saperla individuare. Beh, se mi facessi vedere potrei forse capire cosa succede, però senza saperlo guardare. Sfortuna, sarà come con le prigioni, ti ricordi che c'erano dei punti in cui tu andavi e ti teletrasportava nella prigione? Ma non era una botola quella della prigione che ti faceva cadere giù? Dopo. No, no, quello dopo. Ma quando avete fatto le passerelle. Ah. Potrebbe esserci tutto. Cosa avete visto? Giù dal pozzo che avevamo già visto, in fondo, oltre a tante ossa per terra, c'è qualche tomba di pietra e si è ritrovati lì dentro. Cosa c'era nelle tombe? Noi. Quello che ci deve essere nelle tombe. Direi. E quante sono queste morte. Tombe? Boh, saranno state 7. Non le ho contate. erano 10 che si toccata, ma non mi interessa. Eravamo in fondo al contare fino a 7. Evidentemente non arrivo a 10, rega, io arrivo a 7. Evidentemente qualcosa in quel corridoio ci ha teletrasportati lì. E la cosa buffa è che, da quello che ho capito, ha fatto apparire anche delle altre creature. Quindi dobbiamo ricordarci di evitare quel corridoio lì, direi. Camminiamo più in questo corridoio. Mettiamo io direi che potremmo andarcene da questa stanza, da questa zona del castello. Forse è il momento di affrontare il nostro destino. O vogliamo vedere delle altre tombe, perché alla fine sono belle. Direi che è arrivato il momento di affrontare il nostro destino. Ma secondo voi Strad ha capito, cioè può avere idea di cosa è successo qui? Avrà qualche modo di... insomma, è la sua tomba, magari ha qualche... Beh sì, glielo vuoi andare a chiedere? No, però dico, Strad, secondo voi... Una curiosità. È a conoscenza? È possibile, secondo voi? Tu, Giulio, che sei Atanas, sei quello che ha più esperienza... Di malvagità. Faccio un tiro di... Sei quello più amico di Strad, tra virgolette. Ah, però ha già avuto queste cose del essere collegato a Strad, è già stato qui più volte, magari. Di investigation. Insomma, tutti i venerdì viene a fare aperitivo, so che è un'abitudine. Sì, esatto. Scusa. 17 in investigation. Quando parlo insieme. Elementare, Watts. Beh, il... ragioni sul fatto che le tre che vi hanno assalito, che si sono teletrasportate all'interno di della tomba, sono arrivate lì con un tempismo abbastanza, insomma, veloce. E la differenza rispetto a prima, quando camminavate lì intorno a guardare tutte le varie cripte, eccetera, era che la leva non era stata ancora attivata. Certo, è quello che dicevo io. Una volta aperta questa stanza, sono scattate tutte le varie cose di difesa. Però questo non risponde in realtà alla nostra domanda. La domanda è che probabilmente sanno che c'è qualcosa, non sanno cosa, anche se non sanno cosa. Dicendo, potrebbe fare 2 più 2. Sì. Basta che facciano 2 più 2, lo capisco. Beh, è una vistana probabilmente, che è entrata qui per rubare. È plausibile. Certo. E, ok, quindi non lo so, andiamo via da qui, direi in fretta. Diamo la cosa... Sì. Una grata. Sì, magari qualcuno magicamente lo fa, sarebbe meglio. E poi da che parte se ne vanno gli altri due? Scusate, e se provassimo ad andare da dove gli altri sono arrivati, da dove sono arrivati i vampiri? Cioè teletrasportarci in quel portale, dici? Ci ritroviamo come ha fatto. Non è andata nell'altra. Sì. Loro sono arrivati da destra, no, e sono usciti a sinistra. Hai ragione, un'altra. Allora sì, potenzialmente sì, non vorrei ritrovarmi in braccio a Strad, però è un'opzione. Vabbè, mandiamo prima il gufo di qualcuno che ci dice qualcuno, che ragazzi, qualcuno è un gufo. Non è che il gufo ha telepatia a raggio infinito. Secondo me possiamo anche affacciarci noi. Puoi ritornare, cioè passa Allora, scusate, l'obiettivo in questo momento qual è? Adesso che abbiamo capito dov'è la tomba è sconfiggere Strad, giusto? Sì. Andiamo, male che vada ci ritroviamo davanti a Strad, ben venga. Probabilmente mettendoci anche d'accordo con i nostri alleati, visto che ne abbiamo. Sì, ci devo guarire. Boh, alleati sono parole grosse, cioè. Spesso abusiamo. Vabbè, le altre persone che hanno almeno una cosa... Però io un'occhiata di là hai detto... obiettivo in comune con noi. Secondo me hai detto bene, io un'occhiata di là la darei. Io? Cioè, non penso che ci sia strada in piedi davanti al portale. Cioè. Piuttosto che rifarci tutta la strada a piedi, che qui alla fine siamo stati abbastanza costretti a finire. Eh sì. No, no, è un'idea, un'idea. Secondo me ci sta. Intendi questa campagna? In teoria, andando a logica, un po' dovremmo finire nelle zone degli alloggi di sta gente. Dici con da dove sono arrivati gli altri? Immagino io. È un rischio, ma forse può valerla più. Così che... sapremo anche dove andare appena ha sconfitto Strade, in caso. Per arrivare qui per arrivare qui in fretta. E poi comunque rifare il giro tutto il castello va dando tempo a Strade di raggiungersi, non ha senso, tanto vale tagliare e vedere dove arriviamo da di qua. E chi va per primo? Oh, vado io, è indifferente alla fine. Cioè, mandare il gufo ha ragione, metti che è lontano, non, telepaticamente magari lo perde pure, non ha senso. Vabbè, oh. Poi il gufo può ripassare. Quindi tu da qua... Se muore di là, no, quello intendo. Beh, se muore sappiamo che non dobbiamo oltrepassare la porta. Quindi Garrosh, tu da qua vuoi arrivare giù. Eviterei il corridoio centrale. Siamo sicuri? Ok, da dove passi? Aspetta. Ha più senso passare lì perché abbiamo già attivato quelle trappole e magari sono scariche, o ha senso fare l'altro corridoio dove magari c'è la stessa trappola identica? Ma tu, cioè, tu dici che queste trappole si sono attivate per la perché leva? Perché la leva è aperta. È l'unica cosa che è cambiata, di fatto. Cioè, l'unica cosa che può aver effettivamente avvisato allora, Strade. L'unico modo per scoprirlo è vedere se compare un altro Wraith passando da questo corridoio. Però mentre lo dico ti prendo e ti spingo nel corridoio. No, ha senso, perché no, sono d'accordo, io glielo lascio fare, perché metti che passi di là e appare qualcosa di peggio, al massimo qui appaiono due ride, li facciamo fuori, passiamo. No, però vabbè, lo faccio non tipo importa, dai, facciamo però io, cioè, nel senso, prendo un po' più così e ti spingo per sì, la sì, schiena, ma io in realtà me lo lascio anche fare, quindi vai. Va bene, come avete visto prima, vedete un lampo di luce. Garrosh compare e al suo posto appare uno Wraith. Vabbè, però. Vabbè, raga. Vabbè. Ci siamo preparati all'evenienza. Ok, e qui possiamo concludere. Vabbè, la tantesima sessione. La perdoni, sono ragazzi, levitiamo di combattere. Tipo, oh esatto. Vabbè. Ma quindi ci sono. Questo è un generatore infinito di Wraith. Sì, bello. Se funzionasse come punti esperienza sarebbe bello. Ricorda Betty. Ah, un gioco terribile. A me ricordo un gabbiano, però. Oddio, è vero. Eva, dove cazzo dei gabbiani? Magari. La follia. Se uccido un gabbiano saliamo di livello, ma veramente. Mi mancano 5 punti esperienza. Possiamo cercare un goblin? No, c'è nessun goblin da qui alle terre. Ovviamente no. E... non ho voluto uccidere i gabbiani per lì. Che palle, faccio questo. Vabbè, ok. Sarà divertente la prossima volta a vedere il barbaro. Che... dov'è che ero? Non dovevo passare qui? Ops. Sì. Esatto. va bene, ok. Dai. Alla direi... prossima sessione. Yes. Direi che possiamo dare la buonanotte ai nostri ascoltatori. Chi ci ha ascoltato, buonanotte. Chi ci ha seguito, continuate a farlo. Sono sì che i social, Tycoons and Dragons e GDR. Qua come fai? Scelgo con l'IT. È complicato. Ma una notizia importante che vorrei avere è spuntato nel bara di Vardistan o in un altro? È spuntato. Nella prossima puntata, no, intorno a lui c'è solo c'è l'oscurità e lo spazio ristretto di una bara ancora chiusa, quindi, altro. Quindi una altro. Diversa. Beh, io per educazione poi l'ho chiusa. La richiusa, esatto. Bene. Beh, però, scusa, una volta uccisi 10 Wraith, bravo. Sono 15. Okay, 15. Io ho detto 7 perché non so contare. Sì, saranno 2 o 150, non ricordo. 15 e va bene, è una moltitudine. Era... dopo i 3 sono moltitudini, sono tanti. Raga. Questo era l'episodio 80 della Resistenza di Carta. Dai. X. E vi ringraziamo per averci seguito. Continuate a farlo sui nostri canali social di Tycoons and Dragons. Troppo lontano. RGDR, che è lontano, non ci arrivo. Benissimo. E ai prossimi episodi, giusto, con Tycoons and Dragons, GDR e compagnia. YouTube, Facebook, Instagram. Instagram, pochetto. Vabbè, abbiamo però fatto oggi. Ci siamo. Vabbè, è ora. Assolutamente. Prossimi episodi. Ciao alla Vicky. Ti salutano. Il prossimo episodio cos'è? Umbra Imperi? Umbra. Lunedì prossimo Umbra Imperi. E si va a Roma. Sì. Si va a Roma? No. Assolutamente no. Va bene, grazie a tutti per averci seguito. Episodio prima di Lucca. È vero, saremo, infatti possiamo dare anche l'annuncio, saremo presenti, ci troverete allo stand, no, no. Avremo il nostro stand, ma se sarete a Lucca venite a salutarci, se ci vedete noi siamo quelli con le magliette con la bara sopra. la lapide, vero, non abbiamo la bara e mi ero immedesimato troppo nella puntata di oggi, no però abbiamo assolutamente la lapide. RIP GDR, siamo noi. E niente, continuate a seguirci, alle prossime, se no ci vediamo a Lucca e bella. Buonanotte. Buonanotte, ciao. Ciao. Connettersi. Oh, mamma mia, amici del podcast, butta la pasta.